Dai, le sue due no, amici. Sai che la mia ragazza gli fa talmente schifo questa serata che non è mai manco venuta. Quindi perché pensa al livello. È intelligente. Esatto. Quindi chi sono questi nuovi? Da dove vengono? Come hanno fatto a chi capire? È qui per la... No, sono tornati signori. Sono tornati signori. Signori, ci eravamo preoccupati. Questi signori, per chi non lo sapesse, sono stati... La colonna portante della serata brutte persone! E sono ancora qui! Li abbiamo allontanati per qualche mese, quando la serata proprio era arrivata a picchi di schifo, e giustamente i signori, nonostante abitassero qua vicini, hanno detto non veniamo più. Due volte cosa? Siamo mancati due volte. Anche tre o quattro, anche tre o quattro! Ma è giustificatissimo! Si fidi che noi abbiamo sentito tantissimo la mancanza! Da quando no, siete... c'erano, quando nessuno credeva in noi. Esatto. Da quando siete andati via voi, le buste dei comici hanno 20 centesimi, 50 centesimi. Con voi c'erano quei bei pezzi da 10 euro che rendevano felici tutti. Adesso quindi... sembra che li vogliamo solo per i soldi, no, che no, è vero. Però... è far capire che hanno una generazione con un potere d'acquisto superiore al nostro, caro. Allora, chi è qui per la prima volta? E come mai siete qui? Chi esatto. ve l'ha detto? Chi è lui? Qui tu hai portato 30 persone. Complimenti. Da dove arrivi te? E che cazzo fai cioè, qua? Tu sei partito stamattina da Roma per venire? No, meno male, cioè. Come ci siete arrivati? È stato Eventbrite? Chi è qua per Eventbrite? Ma vai a fare in culo te. Quattro persone, allora, ci sono quattro dov'è persone. Dov'è Samuele? C'è un Samuele? Cioè, hai un tavolo di 9 persone invece che 8? Sì. No, di 8 di 7. Porca miseria. Beh, molto interessante questa discussione tra voi due. Aspetta, senti che mail fa. Aspetta, intratteni un attimo, fai la musichina di... Faccio la cosa cazzo vuol dire fai la musichina? Presente quando c'è l'attesa e mettono la hit del momento. E cosa canto io? E canta Miley Cyrus. And I'm not one unbreakable. Vabbè ragazzi, non sei come Miley Cyrus. Allora lei, che è tanto esperto, mi dica l'ultima canzone di Miley Cyrus, visto che fa il bullo magro. Sentiamo la mail. L'abbiamo trovata. Cos'è, il mercato? Oh. Pezzi di merda. Va c'è bene anche così. Emanuele Laghi. Emanuele Laghi. Sei in forma più o meno dell'ultima volta? Di meno. Perfetto. C'è qui un pubblico. Guarda, te sei l'uomo giusto per farli scappare. Conto in te. Eh no. Allora, l'email... che arriva da Eventbrite. Buongiorno, chiedo scusa per la domanda un po' arrogante, ma siamo una compagnia di amici, purtroppo ci siamo mossi tardi per i biglietti dell'evento. Abbiamo dei biglietti. Ma io non sapevo neanche che avessimo un evento, tra l'altro. Ma noi non sappiamo cosa sia Eventbrite. C'è un ragazzo che ha detto vi faccio la social media manager. Ed è tre giorni che ci manda le foto. Avete visto 25 su 40 venduti, 30 su 40 venduti. Alla fine ne abbiamo presi 8, ma ci manca un posto. Vedi, dovete essere 9, pezzo di merda. Non c'è alcun modo per entrare con un biglietto fatto sul posto, vero? Ma secondo te non chiedo c'è modo per... Chiedo ancora scusa. Vieni qua e umiliati per essere entrato. No, no, stai pure. Anche perché porti via 8 persone. Voglia... Guarda, la gentilezza che hai usato mi fa uno schifo. Una vergogna, una vergogna. Perché tu hai anche ora il chiodo addosso? Ma perché tanto poi dopo esco. Ah, ok, quindi caldo e freddo esatto. viene l'influenza. Esatto. Vuoi spiegare, ma proprio due minuti? Vabbè, serata, meno. Brutte persone. Cosa quindi... la contraddistingue? Cioè, qual è il focus? La serata ti fa cagare. Una serata con comici scarsi, quelli bravi segnalateci, li picchiamo, perché ma non noi ci sono teniamo qua. A mantenere una coerenza artistica. Fondamentalmente, cioè, se volete ridere dovete andare a Gepensemi. Qui no, non si ride, al massimo si prova compassione delle persone che sono sul palco e si fa quella risata di tenerezza che dici poverino. Ma ogni tanto, due volte magari a serata, due volte in due ore, si va nel futuro, perché c'è della comicità del futuro che si può vedere solo qua. Academy! Abbiamo un pullman di giapponesi che è qua fuori per vedere dei ragazzi che sono qua stasera, stanno per andare in Giappone, non torneranno forse dal Giappone... Ma è meglio così, Valerio. La nostra Academy è un vanto. La tua Academy. Sono ragazzi forgiati da me. Ragazzi, eccolo, che... eccolo, guarda l'entusiasmo, guardate l'entusiasmo. Guardatelo, abbiamo un puledro qua stasera. Un applauso stasera, ad Antonio Giuseppe Dante. Abbiamo l'Antonio Cassano della stand-up italiana. E un applauso a Romualdo Greco. No, Romualdo Greco ti chiami? Romualdo Greco. Tanto che posso, che roba brutta. Com'è che ti chiami, ragazzo? Cioè, chi sei arrivato? Togliti sta cazzo di giacca. Lui è esordiente, si è esibito solamente 6-7 volte fino adesso, ma ha già vinto il premio come comico più inquietante dell'anno. No, non dovresti essere contento, però. Romualdo, patti chiari, amicizia lunga. Noi stasera ti teniamo d'occhio, eh? Perché già quelle due denunce che ti hanno fatto non sono roba bella. E no, com'è vero? Tu ridi? No, non bisogna fare queste cose qua. Hai ragione, vedi? Per quello abbiamo chiamato Enrico te. Enrico Veronica, un'altra colonna portante. Ma cosa dici? Vuoi fare un pezzo? Vuoi partire? No, io vorrei, no, che pezzo io? Noi abbiamo... Chi abbiamo messo per primo? Abbiamo messo per primo una persona che forse ci esibirà anche dopo, perché vogliamo partire con il livello molto alto. Vitale? No, cos'è l'indovinello? So. Allora, fa fare a me se non lo sai, cioè, cos'è il mercato? Ripeto, abbiamo una persona, non sei tu, abbiamo un veterano della comicità italiana, ligure, simpatico come tutti i liguri, come solo i liguri sanno fare, e con grande piacere che chiamo sul palco Andrea Di Marco! Andrea Di Marco! Ma perché così tanta cattiveria nella presentazione? Io non ho mai visto uno spettacolo, manda a fanculo sempre tutti. E voi contenti? Non lo so, che cazzo di... Un po' di positività, di bellezza. Devo prendere la chitarra, devo fare un buco di scena. Siete pronti? Non so se si riesce a reggere. Per iniziare, siccome la serata è molto lunga e ci sono dei comici molto bravi, posso dirlo? Anche quelli del futuro, sono tutti comici molto... Facciamo un applauso alla bravura! Io non capisco perché ci sia questo godimento di dire «Ma fa culo, pezzo di merda!» Cosa c'hai, Valerio? C'hai del male di vivere dentro? Cosa facciamo? Usiamo un jack? Allora, io potevo anche accordare prima la chitarra, fare un soundcheck, ma mi sono voluto adattare un po' al clima. Non, volevo che magari poi ci rimaneste male. Che... No, facciamo una cosa. Siccome io volevo fare 4 ore di spettacolo, ma vedo che ci sono anche altri, alcune canzoni che volevo fare le faccio riassunte, ok? Tipo l'anno che verrà, ve la ricordate? Canzone... Ecco, io canzoni di cantanti vivi non ne so. Tutte... L'anno che verrà, io lo faccio in 5 secondi, no? Anziché in 6 minuti e 33 di quando è. Caro amico, ti scrivo che il nuovo anno si farà l'amore. È questa la novità, ok? Tutto riassunto. Andiamo ancora più indietro nel tempo. Penso che un sogno così... Non ritorni mai più. Poi d'improvviso venivo. Oh oh oh, oh, oh, oh, oh. Con te. Questa. Alcune canzoni non vanno a finire bene, tipo c'era una volta una vecchia che adesso non vedo più. Ma che cinga cinga cinga cinga la la la la la. Andavo a 100 all'ora, blem blem blem. Ma non c'è un jack? Andre? C'è un jack? Respiri piano per non fare aria. Non te ne devi vergognare. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Arriva il jack? Attacchiamo? Attacchiamo. Però l'ultimo non vi è piaciuto, avete fatto un cazzo d'applauso, niente. Quello che c'è di bello è la spontaneità, no? Quando c'è la spontaneità si sente proprio... Dov'è il buco tuo? Umano. E qui, grazie. Voilà, aspetta che non è così facile. G generale dietro la contadina, anche se fa male, è quasi amore. Allora io potrei fare un po' di canzoni d'amore, no? Le conoscete canzoni d'amore vecchie, nuove? Potete anche dire una parola, non è che niente, eh? Una canzone d'amore, questo piccolo grande amore, oppure non so, ditene voi un qualcuno. Io le volevo fare, mi state mettendo in soggezione, ragazzi. Volevo fare una, un po' tutte le canzoni d'amore che io possa conoscere in qualche, in 30 secondi, no? Tipo, potrebbe essere una cosa. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te, mi sono innamorato di te, perché se mi innamoro sarà di te. E se è vero che l'amore è amarsi un po', conoscete qualcuna di queste? That's amore, that's amore. E l'amore all'amore, come solo argomento, il grande amore. Amore, quando l'amore viene, il campanello suonerà. Ding dong, ding dong. Amore, papà, papà. E poi ba ba ba bambolina, mi sento il cuore a mille. Si vede che questa è l'unica che conoscete, eh? Abbiamo iniziato a fare mi sento il cuore, mi scazza a fare da da da ba da, da ba da. Mi sento il cuore a mille. Mi sento il cuore a mille giorni di te, di me. Pretendo e ti appartengo, e se ci tengo tu prometti e poi mantengo. Che confusione sarà, perché ti amo, ti amo, ti allora. Ti amo e poi ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi te, poi e poi. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi all'improvviso sei arrivata, tu che sei nata dove c'è sempre il sole. Sei chiara come l'aria, sei fresca come l'alba, sei calda come i baci che ho per perdere l'amore. Quando sei Maria Dolores, quando sei qui con me, dimmi quando, quando, dimmi quando, quando, quando la banda passò. Volevo dire di no, ma il mio ragazzo era lì, e allora dissi ciao amore, con le mani, con il culo, ciao ciao. Andrea Di Marco! A insultare di nuovo tutti. Ma fa culo, Andrea Di Marco! Insulta Andrea Di Marco. Aspetta, se hai il coraggio. Insulta Andrea lui. Di Marco, la quota bella persona di stasera. Però possiamo garantire che brutte persone ha cambiato la, tutti. La sua influenza. Cioè, noi abbiamo avuto Alberto Vitale, che è venuto qui, un simpatico signore con una famiglia. Adesso è un cocainomane. Va a puttane. Noi speriamo che Andrea Di Marco diventerà uno di noi. Siamo peggio di Scientology, ne abbiamo plagiati a centinaia. Più o meno sì, più o meno sì. Qui abbiamo un pezzo da 90 adesso. Chi è? Un matto vero. Alberto Vitale. No, un matto vero. Alberto Vitale è il puttaniere adesso, è diventato il puttaniere. Comunque, un matto vero. Enrico Veronica? No, ma Veronica lo presento in un'altra maniera. Perché mi fai delle domande se sai già che non so la risposta? Non la so la risposta. Nemmeno io lo so, dovremmo metterci d'accordo io e te. No, abbiamo un matto vero, uno che due settimane fa non era in grado di intendere di volere su questo palco. E si è visto. Ma noi diamo una seconda possibilità a tutti. Ho capito chi è. Hai capito chi è? Ecco. Manuele Laghi. Manuele Laghi. Signore e signori, un grande applauso. Dillo dopo, bravo, va. Si, teniamo il vino vicino. Bene, come state? Vai, grandi. Allora, questa è una serata di stand-up o di cabaret? Come fate a capire se una serata è stand-up o cabaret? Perché se uno è in piedi, ah vabbè. Allora, io ho un mio metodo che funziona quasi sempre. Allora, se qualcuno dice sborra, è stand-up. Se qualcuno dice suocera, è cabaret. Ma se dicono sborra sulla suocera, è teatro d'avanguardia. Allora, sicuramente qualcuno mi avrà già visto, eccetera, ma quelli che non mi hanno mai visto, o anche quelli che mi hanno visto, si staranno chiedendo: ma questo coglione da dove cazzo è uscito? È cinese? È giapponese? È mongolo? È il figlio illegittimo di John Lennon e Yoko Ono? È Yoko Ono? È il leader della Corea del Nord? No, mi dispiace deludervi, ma io sono italiano, anche se sembro cinese. Sono un po' al contrario dei vostri abiti firmati. Sono una banana, giallo fuori ma bianco dentro. Ci mette un po', eh? Allora, qualcuno potrebbe dirmi: ma allora perché cazzo c'hai questa faccia? Ce lo starete pensando, no? Tu che mi guardi così, stai guardando il telefono, mi stai facendo un video. Ciao, ah, stai facendo un video. Non è, no, l'ultima volta che è successa questa cosa non è andata bene. Allora, secondo voi io di dove sono? Pechino, sì, Milano, no. Hong Kong. Allora, io a volte dico che sono dell'Uzbekistan, perché nessuno sa dove cazzo sia l'Uzbekistan. Oppure che sono islandese, terzo cugino di Bjork. Ma la verità è che io sono italiano, anzi sono romagnolo e sono in realtà un mutante. Un mutante, non che sono in mutande, quelle non le porto mai perché non si sa mai cosa succede. Allora, è un po' complessa. Voi a che età avete fatto più o meno la prima cazzata? Cioè la prima cazzata hai detto: ma cazzo, se tornassi indietro io quella cosa non la farei. 15. Oggi, vabbè, no, la prima. A due anni. Io avevo meno 9 mesi, ero solo un brodo di DNA e già facevo scelte di merda e sceglievo di mutare. Allora, è un po' complesso. Allora, in pratica il mio DNA non è quello di mia madre e di mio padre o di mia madre dell'idraulico cinese, ma è qualche cosa di nuovo. Sapete come funziona il DNA? Più o meno, no, vabbè, no, dalle facce non mi sembra, soprattutto in questa zona, che ci siano degli ingegneri genetici. Allora, il DNA è come una sinfonia, tipo per Elisa, che poi è una bagatella, vabbè. E ecco, se tu suoni tutte le... i geni sono come le note, e se tu suoni tutte le note correttamente viene fuori la sinfonia, tipo bellissima, per Elisa. Na na na na na na na na na na. Se invece li suoni alla cazzo di cane, come è successo a me, viene fuori l'inno della Repubblica Popolare Cinese. Succede, si chiamano mutazioni. Altre mutazioni sono i capelli rossi, gli albini, Paolo Brosio. La mia è una mutazione particolarmente rara. È come vincere la lotteria e poi essere colpiti da un fulmine. E mi dà il superpotere della supervisibilità. Appena entro in una stanza, tutti mi notano. La prima volta che ho provato a bere una birra, l'hanno detto a mio padre. La prima volta che ho fumato una sigaretta, l'hanno detto a mia madre. La prima volta che ho rubato un ovino Kinder, se ne sono accorti, alla faccia del fatto che i cinesi sono tutti uguali. A me è stata preclusa fin da bambino la via del crimine, che è la carriera più promettente in Italia. Anche perché io non sono nato a Milano, sono nato a Faenza. Qualcuno conosce Faenza? Sì, è quella presente sulla A14, quando sentite quella gran puzza di merda, quella è Faenza. Se cercate Faenza Puzza trovate su Google 62.000 risultati utili. È definita la capitale mondiale della puzza di merda, ma è anche la capitale mondiale... Brava! Delle ceramiche! Ah, chi l'ha detto? Ah, vabbè, ma lei l'ha già sentito, ci credo. Troppo facile così. Che infatti in francese si dice... Faience. Ai francesi piace un sacco la puzza di merda. È per quello che non hanno il bidet. Beh, porca, cioè, è vero, ci sono stato 25 anni, lo so. Cioè, ovunque andassi mi prendevano per il culo. Ah, sei cinese e puzzi. No, quello è perché sono di Faenza. Vedete se non è vera. Però, oltre a essere la capitale mondiale della puzza di merda, la capitale mondiale delle ceramiche è anche la capitale mondiale del vino. Perché a Faenza si produce il vino italiano più venduto al mondo. Il tavernello. Noi facciamo piastrelle per il cesso e vino di merda. E infatti puzziamo come una fogna. Allora, immaginatevi a Faenza, nella tranquilla Romagna, negli anni Ottanta, una tranquilla sdora romagnola, invece di partorire un bel cappelletto... tira fuori un involtino Primavella. First reaction shock. Anche perché in quel periodo era più facile imbattersi in una strage che in un cinese. Ma com'è successo? Cioè, come... no, sì, beh, è vero. Cioè, com'è successo? La signora ha mangiato troppo riso? Ha fatto il viaggio di nozze in Cina? Per mettere al sicuro l'onore di mia madre è stato subito messo in chiaro che io ero malformato geneticamente. Che non so voi, ma non è un bel biglietto da visita in certi ambienti tipo la scuola. Per me è stato un problema, ma è stato un problema anche l'asilo. Io tra l'altro reagivo con grande eleganza, piangevo, urlavo e poi mi pisciavo addosso. Praticamente un talk show con i Vazzanicchi. E, ecco, quindi l'asilo è stato abbastanza difficile... Ma la scuola è andata anche peggio, perché si è scoperto, caratteristica tra l'altro degli asiatici, che io ero molto bravo in matematica e ci tenevo anche a essere molto, molto saccente. E quindi immaginatevi questo ragazzino, tra l'altro io ero pure grasso, ma grasso brutto, cioè non quei bei cicciottelli, io avevo proprio le tettine, cioè ero un incrocio tra un femminiello napoletano, Sheldon Cooper... e il leader della Corea del Nord. La gente ancora si chiede come io sia sopravvissuto tutti quegli anni. Però diciamo che poi crescendo... Cioè, è vero, è stata difficile la scuola, è stato abbastanza un inferno, ma io non ho mai sofferto di depressione. Questo lo devo dire perché mia madre mi ha sempre spiegato che la depressione è una malattia per ricchi e noi non potevamo permettercela. La mia psicologa 20 anni dopo si è permessa la barca a vela. Non ho mai sofferto di razzismo, perché in fondo verso i cinesi non c'è un grande razzismo. E poi al massimo la gente pensa che insomma che puzzano e che mangiano i gatti. Però nel mio caso è vero, quindi... E soprattutto non ho mai sofferto, non mi sono mai ammalato, non sono mai diventato un alcolista, non ho mai sofferto di alcolismo, perché l'alcolismo in Romagna non è una malattia, è uno sport! E dopo tutti questi anni, a un certo punto ho capito che se la gente mi prendeva in giro, se la gente scherzava sul mio aspetto, era perché era divertente scherzare sul mio aspetto. Perché prendersi in giro è un modo di conoscerci, di stare assieme. E quindi io ho raggiunto la mia pace, il mio equilibrio interiore, venendo su un palco e prendendomi in giro da solo per far ridere gli altri. Non è finita. Ah, perdonami, non è finita. Perché ci hanno creduto, non è così che, assolutamente no, io visto che la mia vita e la scuola è stata un inferno, io sono diventato un professore di matematica e adesso rendo la vita un inferno per gli altri! Grazie a tutti, io sono Emanuele Laghi e vi aspetto su Facebook per un bel pollicione, su Instagram per un bel cuoricione o nel bagno per un bel soffocone. Grazie. Scusate se ho interrotto la chiusa, che comunque molto pregna. Signore e signori, Emanuele Laghi, fategliene un altro. Adesso cambio microfono, perché devo lasciare il microfono a un poeta che sta per entrare. Spacco tutto. Siamo arrivati a un momento. Valerio, però Valerio Manetto ha scritto stasera, gli ho detto vengo tu, sei fuori, parti i cazzi tuoi. No, ma è una roba tra me e lui. Ha detto no, ma stasera faccio il conduttore per bene, serio. Dov'è Valerio? È arrivato James Dean, signori, con la sua giacca di pelle. Quante donne hai cuccato con sta giacca lì nel cortile? Eh? Che succede? Ma niente, stanno aspettando te. No, io pensavo... Beh, guarda, già metà sala ha detto che non tornerà mai più. Era il nostro obiettivo. Sì, ma non al comico 2. Devi farlo capire al comico 7 e 8. Comico 2 vuol dire che stiamo andando molto forte. No, ma io sono qua, sei tu che sei fuori. Cosa stavi facendo di bello? Mi stavo fumando una sigaretta, stavo bevendo del vino, stavo parlando con delle persone. Bella vita che fai, su. No, ma la vita cos'è? Cioè, è un qualcosa in cui bisogna spendere del tempo con delle persone belle. Ora, noi abbiamo radunato qua delle brutte persone perché vogliamo far chiudere il locale, però una volta che c'è una mezza possibilità, merda! Allora ragazzi, quello che stavamo per dire è che fondamentalmente nell'essere brutti noi troviamo il piacere di accettarci, quindi voglio che guardiate la persona che avete a fianco alla vostra destra, guardatela, guardatela per favore. Prendetegli la mano. Anche se state pensando che schifo. Tanto metà sala si è girata di là, metà di qua. Quindi concetto di destra e sinistra non è chiarissimo, ma non è un problema. Dio, comunque lui è messo bene, Secondo comico già bestemmiato. Ma è da intercalare, quindi non c'è rabbia nei confronti dell'altissimo. Che ci guarda, salutalo. La linea di demarcazione. No, stavo notando un ragazzo con gli occhiali che come gli capita becca bene, che da un lato c'ha l'amorosa, dall'altro c'ha un'altra bella figa, comunque che stento sarà contento lui o lui del fatto che tu chiamerai una bella figa tua sorella. Vabbè, ma scusami, ma sarai contento che è reputata una bella figa la tua compagna o no? Lui la faccio uno che si incazza alla svelta. Signorina, si può alzare per dimostrare a tutti che è una bella. Ma cos'è? Vuoi prenderle la mano e farle fare pure il giro? Elegante. Appunto. Bisogna. No. Enrico, non facciamo i pervertiti. No, te l'ho detto io. Signori, no. In questo locale si è sempre mantenuto un decoro. Non si è mai superata quella linea di demarcazione. Mai. Comunque è una constatazione, cioè. Mai. Ma tu avresti piacere se lui, il ragazzo, venisse a dirti: ma che bel figo che sei tu, Harry. Ma io spero che me lo dica. Non lo so. Ma qualcuno può dire ad Enrico che è un bel figo? Alzi la mano chi pensa che Harry sia un gran bel busto. Ma dopo. Una, due mani. Samuele! Merdaccia! Ti piace Enrico? Buono. Alla ragazza, sei piaciuto alla ragazza di Samuele? È fuori da solo la ragazza. Signori! Vai. Lo vendiamo a 5 euro! Chi offre di più? 3,99 per i primi 5. 4 euro! Finita l'asta. E uno! E due! Un'offerta! E tre! Andata a 4 euro. Costa di più un pacchetto di sigarette. Sai che momento c'è adesso? No. È il futuro che arriva nel presente. Quale dei due? Il poeta. Abbiamo il poeta. Qual è dei due? Il poeta. Se chiamo il poeta, chi è? L'altro è showman. Uno è poeta. Poeta qua. Guarda chi è vestito da poeta. Giacca da poeta. Atteggiamento da poeta. Barba e capello da poeta. Allora. Parole da poeta. Da poeta e da denuncia. Signore e signori, è un momento emozionante per me perché l'Academy è una scuola che io ho creato e che mi sta dando grandi soddisfazioni. Non garantisco che non verrà lanciata della merda sul pubblico. No. Proteggetevi, state attenti a qualcosa che non avrete mai visto. Fate un grande applauso al primo membro dell'Academy di questa sera, Romualdo Greco! Silenzio! Allora, con tutta quest'ansia addosso, probabilmente non posso garantire che non vedrete merda, perché probabilmente mi cagherò addosso, quindi io vi avverto. A parte questo, come avete sentito, mi chiamo Romualdo Greco e mi hanno presentato come poeta, addirittura poeta da denuncia, ma insomma, se era poeta Gabriele D'Annunzio, cioè, parliamone, insomma... Cioè, quindi... Vabbè, ho anche Pascoli che insomma pare che praticasse incesto con la sorella, quindi nel senso non è che le leggi tu queste informazioni su quali libri di testo, scusami, su quali libri di testo? Ma non volevo metterti in difficoltà, l'hai detta con molta sicurezza, pensavo avessi approfondito. Nel senso, il mio professore quando spiegava a Pascoli, insomma, i riferimenti, diciamo, per esempio c'è una poesia, adesso sto tirando fuori così a caso, ma... Sei sicuro? La cavallina sola e la sorellina pecora. Ragazzi, il livello è difficile Si sapeva, diciamo, che Pascoli avesse un affetto molto, diciamo, un affetto molto profondo, diciamo, per la sorella, e quindi sì, alcuni hanno presunto, diciamo, che alcune sue poesie, per esempio la sua poesia sulla primavera e il racconto appunto di come sbocciano i fiori, come vengono impollinati, che è letteralmente praticamente una metafora sessuale, si dice possa essere un riferimento alla sorella, ecco. Beh, ma che bel modo di aprire, che bello argomento. E questo sto pure... Bene. Pare, qui mi suggeriscono, che la sorella comunque provocasse. È vero che la malizia sta negli occhi di chi guarda... Domanda dal è il tuo pubblico, chiedono a te. No, mi sa che era tutta colpa di Pascoli, quindi era lui la brutta persona, come lo sono io sono una persona terrificante, come mi hanno già presentato, e non lo nascondo, anche perché tra i miei pezzi precedenti posso raccontare di meraviglie, ossia io che sono morto di figa, io che sono un segaiolo, bello, io che sborrerei in faccia le persone, io che ho lettere... I due signori là si sono persi il 20 gennaio una scena... Vi siete persi niente, signori? Garantisco, no. Io. Come? La serata in cui ho letteralmente smerdato i miei nonni di fronte a un pubblico, cioè letteralmente, quindi sono veramente una persona terrificante, senza vergogna, ma lo devo ammettere, sto cercando diciamo di rientrare sulla retta via. Ed è per questo che sono entrato in seminario, per diventare un prete a cui piacciono i bambini. No. Grazie, fatemi un applauso. Silenzio, stiamo parlando di preti pedofili, vi perdete i collegamenti. Ecco. No, a parte gli scherzi, in realtà ho cercato di avvicinarmi al femminismo da qualche anno a questa parte. È stato un percorso abbastanza difficile, dato il mio passato abbastanza traumatico e la mia crescita, diciamo, che ha distorto, diciamo, abbastanza la mia visione del mondo femminile, ma ho cercato, diciamo, di avvicinarmici dopo aver rischiato due denunce. uno cerca, diciamo, si sente un po' in colpa, quindi cerca di diventare migliore. E il femminismo per me è stata una sorta di, come dire, di epifania. Possiamo dire che il femminismo porta anche dei vantaggi anche per noi maschietti. Insomma, qua abbiamo un pubblico quasi interamente maschile, e vedo che mi stanno guardando con che cazzo sta dicendo, cioè, come il femminismo porta vantaggi agli uomini. Sì, per esempio, tra le varie cose, il femminismo mi ha aiutato ad accettare me stesso. Io, per esempio, al liceo avevo il terrore di essere considerato omosessuale e di dare qualsiasi segnale in proposito. Per fortuna, i miei eventuali atteggiamenti isterici e scenate del tipo se venivo preso per il culo, io che mi mettevo, non lo so, a strillare, a inseguire coloro che mi prendevano in giro, con vena, diciamo, abbastanza da donna col ciclo, lo devo ammettere, sembravo un isterico, un'isterica, però la verità è che io sono sembrato sempre più a 15 anni, praticamente sembrava ne avessi 6. Quindi, per fortuna, mi sono salvato dalle accuse, diciamo, di omosessualità, perché in realtà sembravo un infante scappato dall'asilo. Quindi, per fortuna, non ho mai avuto questo problema. In alcuni casi, come per esempio una volta che sono andato in discoteca, era uno schiuma party, e quindi mi ero messo una maglietta azzurrina molto aderente. Non vi dico giustamente i commenti dei maschioni che erano dietro di me e che praticamente mi guardavano e mi dicevano, li sentivo dietro, frocio. Che posti frequenti? Eh? Che posti frequenti? Questo era il meraviglioso The Flag a Biassono. Il The Flag, ah? A Biassono. Cos'è? Dov'è? Cos'è? Era una discoteca che adesso ha chiuso. Scusate, non sono mai stato al The Flag a Biassono, scusate, no. Colpa mia. Niente, meno male che non sei mai stato al The Flag, no. Quindi insomma, una bella esperienza. Serata. Quindi, insomma, io al momento, insomma, non avevo detto nulla, però, insomma, mi ero abbastanza vergognato, ho detto io mai più con questa maglietta. Dopo praticamente quella sera l'ho bruciata. Vedo che bello, è iniziata conversazione. Cosa vi stavate dicendo? Vabbè, ma non ci rimanere male. Avranno detto magari quello che hanno detto i maschioni in discoteca, sai? Purtroppo sono commenti che si fa. Bene, e io vi posso dire che adesso a una cosa del genere direi qualcosa del tipo: ti piacerebbe? Ma no, non te lo meriti, stronzo. Quindi ne hai ammazzati 4 con quella mossa lì. 4 sono andati giù e non li ritiriamo più su. Serve, non lo so, il massaggio cardiaco, non lo so, respiro bocca a bocca. Vedi tu. Dove va, allora, a parare questa storia? Dove ci porti? Dove vi porto? Adesso ci arriviamo. Oh, no, ma io non ho fretta. Andiamo dove vi porta il vento. No, tutta roba tua. Silenzio, c'è una poesia. C'ha alla giacca? No, a parte gli scherzi, quindi ho imparato ad accettare me stesso, ho imparato ad accettare le mie debolezze, le mie fragilità, ho imparato che un maschio poteva piangere. No, non è facile, insomma. Adesso quindi piango spessissimo senza vergognarmi. Grazie. Ormai. Bravi, applaudite perché così almeno non mi metto a piangere davanti a voi. Io sento suoni strani, tra l'altro. Poi. Fine primo tempo? No, fatemi un attimo. No, no, ma vai, ti stuzzico. Io ogni volta perdo il filo. Ma va bene. Perché sei un poeta. No, vedi, non lo so, al massimo i poeti perdono i versi, non perdono il filo. Sì, però non è che ogni cosa che devo dire io, tu... vai, tu vai come fossi da solo. Sì. Visualizza quella serata della discoteca. E allora, quindi ce l'hai. Quindi ci sono diversi aspetti positivi, diciamo, per un uomo. E però ci sono anche cose che bisogna decostruire. Per esempio, altra cosa che grazie al femminismo ho imparato è accettare, diciamo, i propri fetish sessuali. Non è una cosa così scontata. Ma se vi trovate una ragazza femminista e siete dei feticisti dei piedi, è probabile che comunque verrete accettati così come siete. Invece provate per esempio ad andare da una ragazza, non lo so, fan di Andrew Tate, e a dire che siete feticisti dei piedi. Voglio vedere cosa vi dice. Questa è nicchia, eh? No. Questa è nicchia. No. Tu vieni dal futuro, no, ma... Ok, no. Non sapete chi è Andrew Tate. Ah, c'è ok, qualcuno ha colto. Sì, abbiamo qualche red pillato in sala, che bello. Spero di no, dai, ti prego. Spero che lo conosciate solo di fama, ecco. Ma... Se no, fuori, grazie. Ok. Detto... Detto questo, poi ci sono appunto delle cose che bisogna ricostruire, come per esempio il concetto di fedeltà e di tradimento, e non è facile. Insomma, io sono una persona piuttosto gelosa di natura, così gelosa che quando vado in discoteca, diciamo, e ci provo con una ragazza, io tipo piscio intorno per delimitare il territorio. Incomincio tipo ad abbagliare se nel caso qualche altro maschio si avvicini. Adesso però ho imparato che non è l'importante, cioè il sesso di per sé non è la cosa che rende diciamo il tradimento oh santo cielo, mi sono impappinato, fantastico. No, ti preoccupare. Un applauso di incoraggiamento. Yay! Io, dopo questo applauso, secondo me ci vuole una grande chiusa. Vabbè. Ma grande però, Se non ce l'hai, aspettiamo 20 minuti, ci pensi, ma l'importante è che sia grande. No, vabbè, ma sto scherzando. Fa quello che vuoi, mi viene l'ansia. Mi viene l'ansia a me. Sì. No, allora. Vai sereno. Allora. Abbiamo tempo noi. Allora, insomma, il tradimento sta appunto nel tradire la fiducia, non tanto nel sesso o comunque nel demonizzare il fatto che l'altra persona faccia sesso. Cioè, noi molto, molto spesso demonizziamo, per esempio, una donna che fa sesso, non per niente. I termini peggiori per una donna, cioè appunto, sono puttana, troia. Ogni volta dobbiamo demonizzare il fatto che una donna scopi. Quindi, se una donna tradisce, puttana. Se un uomo tradisce, come lo chiamiamo? Gigolò? Non ha lo stesso effetto. Di solito viene chiamato, penso, mi possiate convincere? Stronzo? Stronzo? Stronzo? Pezzo di merda? No, non lo so, sono qui, bastardo? Cioè, si faleva sul fatto appunto che ha tradito la fiducia, quindi è uno stronzo. Perché un uomo è stronzo e una donna è puttana? Perché? Insomma, perché appunto diamo appunto più valore al fatto che... insomma, la donna faccia sesso, quindi, cioè, se una donna scopa tanto, è un problema, diciamo, dal punto di vista della società. Quindi, diciamo, ho cercato di decostruire, e quindi adesso, anche se la mia ragazza mi facesse le corna, le proporrei, non lo so, di includere il ragazzo e di fare un threesome. Cioè, penso che sarebbe decisamente la soluzione. Se invece dovessi tradire io, mi sentirei così tanto in colpa che mi taglierei il pene e mi ci impiccherei. Niente, non è entrata. No, hai appena detto che tu vuoi tagliare l'uccello. Eh? E ti vuoi tagliare il pene, giusto? No, non è che ho detto che se dovessi tradire... Ti taglieresti il pene? Sì. E ti impiccheresti con il pene? Sì. Per far capire che hai il pene molto lungo? No. Qui non c'era neanche quel doppio senso lì. Cioè, sì, ma in realtà... Capisci? Sei talmente avanti che pensi le battute, manco ti rendi conto di averla fatta. È il futuro. Però mi devi dare una grande chiusa adesso, perché a 20 minuti mi sta venendo un ictus. Ok. E sto sudando come un cretino. C'ho due ascelle che pezzano che tu non hai idea. Perfetto. E allora chiudiamo col fatto... Vedi tu, che... una chiusa tua. Mi era appena salita una battuta, mi è andata via. Sono quelle lì. Niente. Sai allora, che sono quelle proprio più belle. Oggi niente, oggi non arrivo nemmeno alla chiusura, quindi vi lascio così. Valerio Grande. E Andrea Panetti. Eroe, Romualdo Grieco, un eroe! Signori, sarà una serata lunga, sarà una serata faticosa, sarà una serata dove succederanno delle belle. Andiamo avanti con un grande altro momento di poesia. Abbiamo abbandonato un poeta per avere un intrattenitore, ed è Valerio Eroe. Romualdo Grieco, un applauso! Un applauso! Oh. Pezzo un uomo, può succedere di dimenticarsi delle parti. Può succedere di dimenticarsi di respirare, possono succedere un sacco di cose. Può succedere. Allora, ragazzi, a che punto siamo? Cioè, siete freschi? Quanti dei presenti si sta pentendo? Non torneranno la prossima volta. Alzate di mano. Cosa ha detto quello? Ti mando una mail nel caso. Hai capito? Samuele, io e te per email dialogheremo tantissimo. Allora, ragazzi, adesso è arrivato il momento. Cioè, lui è un tuo amico che parla sempre con te. Cosa ha detto? Lui parla sempre con te quando tu ti sei. Ma lui parla da solo. Lui in realtà non sa che potrebbe che stare qua. Lui è davanti a un muro bianco nel manicomio e sta parlando da solo. Però nel suo parlare da solo visualizza dei bellissimi Valerio Eroe, Kilmeyer e Andrea Fadenti. Pensa che vita che di non merda. Lo ascoltano. Pensa che vita di merda. Nella sua testa visualizzano i due. Pensa che brutta pazzia. Dai, non va neanche così male. Ma vabbè, opinabile. Cioè, potrebbe andare peggio. Cioè, ragazzi, onestamente, potrebbe andare peggio. No, non sento sì. Vabbè, dai. Allora, a livello fisico non siamo andati bene. In che senso? Non piacciamo. Purtroppo è andata così. Ma a livello di contenuti invece? A livello di contenuti per il nostro obiettivo stiamo facendo un gran lavoro. E abbiamo già mandati via 4-5. Era più piena quando abbiamo iniziato. In questo momento ci sono 4 persone che hanno alzato la mano dicendo che non torneranno. Gli diamo il colpo di grazia definitivo? Secondo me sì. Signore e signori, è un altro momento magico questo, Quindi se prima avete avuto qualche difficoltà, perché mi rendo conto non è una cosa consueta, qui stiamo andando questo ancora... Questo è il secondo membro dell'Academy, è l'Originals, colui da cui è nata l'Academy. Il primo! Signore e signori, fate un grosso applauso ad Antonio José Dante! Prendi il tuo microfono, Antonio José. Un nome un po' caraibico, un po' letterario. Ho due nomi praticamente. Sì, è un nome composto. Però non siete riusciti a farmi diventare una brutta persona. No, tu sei un bravo ragazzo, è vero. È vero, mi dicono sempre che bravo ragazzo che sei. Ma se fossero tutti come te... Ecco, se fossero tutti come me, si fermerebbe il mondo. Perché io non ho mai voglia di fare un cazzo. Quindi, prima di dire se fossero tutti come te, vabbè, se volete un olocausto nucleare, ok, fossero tutti come me finisce il mondo, perché nessuno fa più un cazzo, quindi... Posso dire che però noi non abbiamo mai detto se fossero tutti come te, è un complimento che ti sei fatto da solo. Ma non ho detto che l'avete detto voi, mi è stato detto, in altrove. Da come l'avevi messa sembrava te l'avessimo detto. No, ma è vero, mi è stato detto. Va bene, adesso andiamo avanti un'ora e venti io e te a fare, me l'hanno detto, non te l'hanno detto, cosa ci racconti stasera? Oggi... Cosa ci offri? Cosa offri a loro, non le a me? Le solite freddure e... E poi, vabbè, comincio con qualcosa di serio. Sì, però anche tragicomico. Scusami, tu non puoi arrivare qua di fronte a un pubblico nuovo. Ti chiedo, cosa fai vedere a loro? Le solite freddure. Cioè, sei scoglionato. Alza quello che stai per... Presenta bene. Sì. Allora, comincio con qualcosa di tragicomico. Che presentazione adesso. Farà ridere lo stesso. Allora, l'anno scorso sono andato al centro commerciale di Arese a lasciare il mio curriculum in un po' di negozi, compreso il Signor Vino, che è un ristorante, candidatura come cameriere. Sono andato lì pensando che mi avrebbero preso, ecco, convinto che qualcuno mi avrebbe assunto. E niente, fa già ridere così. Ma quanto cazzo ero ingenuo! Cosa me l'ho fumato quel giorno per pensare che mi avrebbero assunto in uno dei prestigiosi negozi del prestigioso centro di Arese, il più grande della Lombardia. Cioè, ma seriamente? Cioè, io, un Giargiana, pensavo veramente di essere assunto. No, vabbè, fa già ridere così, cioè... È finito, no? Non è finito, però... No, non ho capito, dice... No, non è finito, non è finito, però voglio dire... Ero ingenuo e patetico o no? Sì. Sì, vero che lo ero. No! Cioè... Almeno ci ho provato, però poi, quando me ne sono andato, avranno pensato... Ma sto coglione, il curriculum, carta da culo! Secondo me... qualcuno l'avrà detto... Adesso il mio curriculum sarà in bagno come carta igienica, tipo carta da culo. Lo avranno fotocopiato e legato ogni pezzo l'uno all'altro, tipo carta da culo, per poterlo riusare. Ma non è un po' macchinoso, non è un po' macchinoso rispetto a comprare della carta igienica normale? No, perché... no. Ci sono proprio fissati con il tuo curriculum? Sì, perché... insomma... Ma chiedo, questa è l'esperienza... Avranno pensato, ma povero illuso, ma dove vive questo? Esatto. Ma nulla, quello che ho fatto l'alternanza scuola-lavoro, che ho lavorato in una azienda, quello, però... Ma tu non è che devi rispondere alle domande del primo che passa per strada, cioè... No, però chiedi dire... tu che cazzo fai domani? Fagli le domande... Io invece come hobby faccio il free product testing self manager, cioè scrocco e non faccio un cazzo. Tanto te la sei fatta da sola la domanda. No, non è una domanda, è un'affermazione. No, tu hai detto, invece che hobby ho io, hai fatto tutto. Come hobby mi piace raccontare barzellette, è una cosa che mi viene bene. Soprattutto quando uno se lo dice da solo. No, ma mi è stato detto che mi viene bene, quindi... Come ti è stato detto? A te hai un sacco di gente che ti dice un sacco di robe, però, Vabbè. Io non parlo con nessuno, tu parli... No, mandagli a fare il culo, ora è il mercato, cioè... Vabbè, comunque sia, hanno inventato un francobollo con la faccia di Berlusconi. Ecco, avete presente che per attaccare un francobollo bisogna sputarci su? Ecco, hanno ritirato il francobollo berlusconiano dal mercato, perché la gente sputava dal lato sbagliato, sulla faccia. No, andava sputato dietro, la gente lo vedeva, Berlusconi, e niente, non aveva capito... Pezzo scomodo, satirico. No, l'unico che usava bene quel francobollo, chi era? ve lo dico io. Aspetta, chi era? Fa monta un attimo. Hai finito la domanda e già dai la risposta. Qualcuno lo avrà già intuito, però. Bravo, Emilio Fede, che era l'unico che le cava dietro, il leccaculo di Berlusconi. Se gli sapete le chiuse perché siete già venuti, non dovete farle, perché siete delle merdacce. Grazie. Non chiamategli le chiuse. Niente, un'altra battuta su Berlusconi. Vado. Anche qui, domandato a te stesso, ha risposto te. Vado. Allora, Berlusconi va dal medico e dice che ha un problema alla pelle e che è pieno di brufoli, ecco. E il medico gli dice: al mattino si deve mettere una crema per farli sparire e alla sera un po' di merda, di sterco di mucca, perché si dice che abbia proprietà terapeutiche e dermatologiche. Niente, Berlusconi per una settimana segue questa procedura e poi chiede al dottore: mi scusi, ma su che studio scientifico si è basato per dire che la cacca ha proprietà terapeutiche? E il medico dice: no, la crema per l'acne è una crema per l'acne veramente. La cosa della merda era uno sfogo mio personale, perché avrei voluto vederla pieno di merda e nulla. Questa devo dire che mi ha spiazzato un po'. Però su Berlusconi tu hai sempre quella chicca, ti ricordi, della mela? Ma non la so raccontare bene come lui, quindi no, la evito. La evito. Sei sicuro? Ho sentito mela, sì. Mela. Vabbè, ma c'è Berlusconi che cade dal condominio, no? E passa davanti alle finestre e urla. Ah! Poi passa davanti alla finestra di un bagno dove c'è una che si fa la doccia. Passa. Ah! Oh! Oh, oh. Ah! Boom, e cade. Questa l'ha raccontata Berlusconi. Questa è nuova. E non è mia, è di Berlusconi in persona. Ma tu non puoi venire qua. No, perché voglio dire, è una battuta di merda, quindi mi paro il culo, è di Berlusconi, prendetevela con lui, io non c'entro. Non sparate all'ambasciatore. No, l'ambasciatore non porta pena. In inglese non sparate. Fai come cazzo vuoi. No, perché in inglese dicono don't shoot the messenger, non sparate il messaggero, e quindi mi sono un po' confuso. Anche anglofono tu. No, più o meno sì. Vuoi farci un pezzettino in inglese? No. La mela, niente, non no, ce la fai? Va bene, faccio la mela. No, vabbè, okay. Ti ho fregato due volte, sei proprio come quelli bis, va bene, vengo fuori. Va bene, c'è Berlusconi che dice... C'è Berlusconi che dice: questa mela sa di figa, la dà? No, ma puzza di culo. Ah no, mi scusi, la giri. Questa è la famosa mela di Berlusconi. No, tra l'altro l'hai detta male, perché hai detto: questa mela sa di figa, la giri sa di... Hai fatto un po' di confusione, però si è capito lo stesso, perché l'hai fatta bene. Grazie. Detto da te poi, no, beh, ha un valore speciale, grazie. Cioè te lo faccio dire da Valerio, guarda. Cosa ci racconti ancora di bello? Perché non è finita qui. No, allora, sono andato in vacanze ai Caraibi e stranamente ho beccato due carabinieri e ho detto... Cosa ci fanno qua due carabinieri? E mi hanno risposto: niente, siamo qui a fare i caraibinieri. Oh. Questa ci mette un attimino, eh? È un pochino, no, ma è proprio... Più sofisticata, sì. È sempliciotta proprio, semplicistica. No, c'è quella aggiunta di quella vocale che ti spiazza un attimo. Vuoi mandare a fare il culo anche tu qualcuno? No, perché? No, so che di solito hai la tua diatriba con questo noto attore italiano. Ah, che... con Lino Guanciale. No, perché avevo criticato una sua serie, Sopravvissuti, no? Parlano di fronte loro. Perché quella serie lì era piena di stronzi mal cagati. E nulla, dopo un po' avevo le palle piene di vedere sempre queste puntate piene di stronzi. Avevo le palle come due mongolfiere, come si suol dire. Vi insegno un nuovo modo di dire: palle come due mongolfiere. Di solito come due cocomeri, no, come due mongolfieri, si può anche dire così. Più grandi, vuol dire che... Sì, esatto, vuol dire che il livello di stress... Maggiore. Capito? Cioè si parte dal palle come due arance, sopportabile. No, palle come due castagne, ok. Come due arance, sopportabile. Come due meloni, inizia già... Tostina. Poi, palle come due cocomeri, al limite della sopportazione. Palle come due mongolfiere vuol dire che non ce la fai più. Perché proprio sta per scoppiare, la mongolfiera è piena d'aria, quindi... Cioè, quindi la scala proprio è castagne, arancio... Castagne, limone, meloni... Limone non c'era prima, No, limone, melone e mongolfiera, no, l'ho detto, limone. Prima hai messo le arance, è sempre agrume, però... Ho detto arance? No. No, sono rincoglionito, scusate. C'hai un'altra chicca? Un'altra, sì. No, chiedo, io non voglio sì, tenerti certo, qua certo per forza. Certo che ce l'ho, certo che ce l'ho. Vi sto tediando come le mie freddure. Non vedete l'ora che me ne vada, dite la verità. No, guarda. No. Allora continuo. Grazie, ti voglio bene, tu che hai detto un'altra, grazie, grazie, sei il sogno di ogni comico. Okay. Lo conosci, no? No, però uno che dice un'altra per un comico è veramente, cioè, grazie, ti ringrazio di cuore, veramente. Grazie. Grazie. Va bene, cosa fanno? 8 cani in mare. Canotto. Esatto, fanno il canotto. Però, alza il livello. Tutti comici oggi, eh? No, non è che sono difficili, non sono difficilissime, mi permetto di dire. No, certo, però diciamo però, che... Ok. Una un po' più... rebus. Un rebus. Ah, cazzo, quello mi viene a mettere nessuno. No, no, non volevo metterti in difficoltà, vedi tu. No, ok, quella che ho detto l'altra volta, che devo ripetere. Tanto lui non c'era, che cazzo ce ne frega. Ma sì, chi c'era magari se la ricorda, no, vabbè. Non c'era nessuno, quindi... Vabbè, ho letto nelle notizie che ci sarà Rocco Siffredi che fa... 3 film nuovi. Allora, il seguito di Castaway con Tom Hanks, che si chiamerà Cazzaway, e la pallina Wilson sarà una bambola gonfiabile. 2. Poi ci sarà Vacanze di Natale 90 con Rocco Siffredi. Diventa Vacanze di Natale A90. Era intuibile. Poi Rocco Siffredi vuole fare Harry Potter. Si chiamerà Harry Potter e le scope se le mettono non dove dirlo, già immaginato. Non dirlo, non dirlo. Già l'ho immaginato. La domanda è, sono tue queste qua? Le rubi a qualcuno? No, mi sono venute in mente tutte a me, così. Ma tutte sul momento? Sì. Cioè, sul momento no, le ho studiate un po' prima perché non volevo venire qua impreparato. Sennò no, no, no, si vede dopo. Giustamente, esatto. Mi sono allenato mentre ero lì in fila. Come si fa in palestra, no? Pre-workout. È stata una fila breve, mi sa. Beh, no. Oddio. Ok, quando ero piccolo dicevo ormai... che il mio sogno era fare il comico e ridevano tutti. Adesso lo faccio veramente e non ride nessuno. No, vabbè, che tristezza. Guarda, ti chiedo io l'ultima, la mia. L'ultima? L'ultima, la mia preferita, quella del segreto. Ok, va bene. Questo è il mio cavallo di battaglia. Non dirlo. No. Non presentarla così. Ormai è troppo tardi. Vabbè, fatto sta che quando sono giù di morale me la dico da solo. Pensa, no? Che roba, pensa che serate. Sì. Tu allo specchio giù di morale che te la dici, ti guardi. Poi mi è venuto in mente un'ultima cosa e poi la dico. Ma ci manca anche due. Va bene, quando sono andato al centro commerciale a lasciare il curriculum, no? Scusa. Ho pensato, ma come ho potuto? Cioè, mi veniva voglia di scrivermi coglione al contrario e dirmelo da solo. Me lo scrivo al contrario. Mi guardo allo specchio, così mi lo vedo. Coglione, ogni volta che mi guardo allo specchio. Un reminder. Pensa che come sono messo male. Cioè, come si dica reminder in italiano. Com'è che? Ah, promemoria. Beh, ma davvero? Io non so più cosa risponderti. Mo la dico. Questo è il momento catartico. Per citare un altro comico, che non dico chi è, perché sennò... Ma dico, fa quel cazzo che vuoi, tanto oramai, ragazzi... No, mi ricordo che si chiamava Flavio, ma non mi ricordo come. Quindi meglio così, dai, se no mi sembra di... Va bene. Nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi. Shh. Tranne Pep. Pep, sì. Bravo! Grazie! tuffati su di loro! No, è troppo basso, non ci sta, vabbè. La prossima volta, va bene. Mi appendo là al soffitto e mi lascio cadere. Chi mi vuol prendere, mi prenda. Chi no, vabbè. È vero, non hai imitato nessuno stasera. Ho già finito il repertorio, li ho già imitati tutti. Quindi mi tocca ripetere, sono costretto a ripetere. Faccene due veloci, dai, due veloci. Due veloci, vai, faccio... Vediamo se... Non devo dire chi è, però. No, sennò è proprio... Stavo già per sgarrare di nuovo. Se tu dici prima chi è... Va bene, Crivio, mi consente. Ho due ville. Adesso mi compro questo posto e faccio come con le orgettine, le ex argine. E faccio Milano 2, Milano 3, Milano 4 e Milano 5. Io quando fai sta faccia qua penso sempre che ti inchiodi. Poi, e ti rimane fissa. Se Berlusconi va nello spazio, va su Saturno e fa Saturno 2. Poi va su Venere e fa Venere 2. È così. La spiegazione, vedi che... L'ultima imitazione è uno chef. No, non è proprio uno chef. Non è proprio uno chef. Amico mio. E diciamo che è anche uno chef, ma non è il suo mestiere. Mi stai deludendo. Tuo piatto mi è rimasto incastrato in gola come pallina di catrame. E io muoro. Tu vuoi che muoro? Stai deludendo. Questo piatto piscio di cane. No, va bene. Chi è? Grazie. Signori, grazie. Ha fatto tutto. Gli manca solo da cantare e ballare il tip tap ed è un artista completo. No. Magari la prossima volta. Signori, ne stiamo mandando fuori qualcuno un pochino alla volta. Orco Giuda sta per cadere. Con una doppia mano faccio tutto. Vedo la persona che mi guarda con la coda dell'occhio, perché fortunatamente è una persona responsabile. Come andiamo, compare? Tutto bene. Non è il primo bicchierino, deduco. Dai, dai, sempre più vuota la sala. Dai, dai, dai, che continuiamo così. Tu non hai ancora tolto la giacca stasera. Ma ascolta, ma se continua a uscire, metti e togli, metti e togli. Ma ragazzi, diciamoci una cosa. Questa serata qui, no? Quando avete scelto su Eventbrite di venire a vederla, ve la immaginavate così? Insomma, non rispondo più. C'è gente che non ce la fa più a parlare. C'è il fatto caso che l'unica che ride è quella a cui abbiamo fatto un complimento. Ma è quella che tu e hai. E anche che sta bevendo come un toro. È quella che tu hai molestato, non che gli abbiamo fatto un complimento. Io non so se è lusingato o ubriaca. Temo la seconda. Ma senti che bel silenzio. Dobbiamo eliminare lei, perché guarda gli altri, sono bellissimi. Guarda, come ci guardano? Dicono, perché siamo ci qua? Ci guardano con giudizio. Il primo giudizio parte dal signore. Il signor dice, mannaggia me che me ne ero stato a casa, che cazzo sono venuto di nuovo. Lui ha detto, diamogli un'altra possibilità. E questa sarà l'ultima. Sì. Chiamiamo il prossimo signor, comico. Signor, ci spiace. Ci chiamiamo spiace. Il prossimo comico. Facciamo. Chi è? È un professionista? Abbiamo dei professionisti. Sì, si vede quando li abbiamo. È bravissima persona, non è la prima volta che viene in questo... È il fuco cainomane, adesso puttaniere. È con grande piacere che chiamiamo sul palco Alberto Vitale. Alberto Vitale! Bravo, bravo, bravo! Allora, dovete sapere che per un comico aprire la serata è molto difficile, perché il pubblico è freddo. È molto difficile essere ultimi in scaletta, perché il pubblico è stanco. Ma vi assicuro che andare dopo l'Academy è il momento più difficile per un comico. Questo è sicuro. Però sappiate, questi erano i comici del futuro, quindi tra 30 anni, quando i vostri figli diranno vado a vedere la stand-up, vado a vedere Romualdo, sappiate, voi direte io l'ho già visti 30 anni fa. E niente, allora andiamo avanti con il pezzo. Niente, scusate, sono distratto perché i ragazzi qua davanti hanno due scarpe identiche, sono due scarpe uguali, che mi fa venire in mente quando, un aneddoto che non c'entra niente, però da bambino io avevo in classe mia all'elementare due gemelli, si chiamano Paolo e Giovanni, ed erano i gemelli omozigoti indistinguibili, erano davvero incredibili ed era impossibile riconoscerli. Ma la cosa bella dei gemelli era, che è una cosa che affascina, è questo legame psicologico che hanno loro, che si dice che se uno dei due gemelli ha male, magari prova male anche l'altro. È una cosa eccezionale. Io ne avevo uno dei due vicini di banco e tutti i giorni io lo pungevo con un chiodo arrugginito per vedere se aveva male l'altro. Allora, non è mai successo, però ho imparato a riconoscerli, perché Paolo era quello con il braccio gonfio per il tetano. Vabbè, niente, allora non è vero che comunque sono un professionista, ovviamente, però ho fatto un po' di televisione, volevo dirvelo. Io ho fatto Africa Nera Got Talent, sono arrivato secondo, ha vinto il concorrente che ha portato la testa rimpicciolita dei giudici, quindi era piccola così, speriamo che venga a lavorare anche in Italia. Ho fatto XYZ Factor, che è la versione in 3D del programma. Poi ho fatto Striscia la Notizia, ero la velina bionda, e ho fatto Zelig, ero Claudio Bisio. A parte questo, la mia vita è un po' avventurosa. Io ho 18 anni, ve lo dico perché può capitare anche voi, 18 anni sono andato all'estero, sono andato via. È stato difficile, devo dire, imparare una nuova lingua, gli usi e costumi di un altro paese. Poi devo dire che dopo 3 anni mi sono ambientato a San Marino, quindi tutto sommato alla fine è andata bene. Sono tornato in Italia, ho fatto un po' di lavori, ve lo dico, ho fatto anche lo spogliarellista, so che può sembrare strano ma l'ho fatto. E una volta mi sono esibito in una discoteca frequentata da Colf Filippine, io mi toglievo i vestiti, glieli lanciavo e loro me li tiravano indietro lavati e stirati. grazie, più grande. Però adesso venendo, stringiamo un po' che siamo in tanti, però venendo un po' a tempi moderni, incredibilmente sono riuscito a riprodurmi, nonostante, come dice Valerio, sia un puttaniere, però sono riuscito a riprodurmi, ho delle due bimbe, ho due bimbe bellissime a cui voglio molto bene, e si chiamano Alessia e quell'altra. E, per loro hanno un problema, non si addormentavano la notte, per cui ho scritto un libro di favole, se vi può interessare lo vendo a fine serata a 7.000 lire. È un libro molto bello, si intitola Favole per dormire, c'è anche la versione in cinese Dolmile per favole. È un libro, devo dire, che mi sta dando grandi soddisfazioni, è anche in promozione, posso dirvelo, per creare un po' l'atmosfera da favola. Noi regaliamo una candela di cera, la regaliamo una volta sola, però il nostro slogan è cera una volta, e sono molto contento, sta ricevendo recensioni positive, molto belle. Mi ha scritto una ragazza, mi ha detto grazie, mio figlio non si addormentava mai la notte, dovevo stare sveglia di fianco a lui tutta la notte, ho comprato il tuo libro di favole, gliel'ho letto, i servizi sociali mi hanno tolto mio figlio e adesso dormo benissimo. Altre recensioni che ho ricevuto molto belle, una mi ha scritto: siamo una famiglia di satanisti, leggiamo sempre il tuo libro di favole ai nostri figli. E poi mi hanno scritto un altro, mi ha scritto: siamo una famiglia di ausilieri del traffico, ma questi erano quelli di prima, quindi era una recensione doppia, non c'è niente da dire. La favola che vi voglio leggere stasera, è l'orario giusto, quindi se volete addormentarvi fate pure, si intitola Il nuovo re della foresta. Scusate, metto gli occhiali perché sono la quota vecchio di questa serata. A proposito di vecchi, voglio solo dirvi questo, che nonostante sia la quota vecchia rispetto all'Academy che si è appena esibita, sono in realtà più giovane di quel che sembra, ma in realtà questo perché a casa mia io ho un quadro che, come Dorian Gray, invecchia al mio posto. L'unica cosa è che lui invecchia bene, con i capelli brizzolati, sempre abbronzato, occhiali da sole, e per me è imbarazzante vedere che il mio quadro scopa più di me. Comunque, dicevo, questa favola si intitola Il nuovo re della foresta. C'era una volta una foresta abitata da tanti animali, il cui re era un vecchio e saggio leone. Un giorno il leone chiamò a raccolta tutti gli animali e gli disse: amici miei, credo sia giunto il momento di eleggere un successore, un nuovo re. Io infatti comincio a essere molto vecchio. Pensate che ogni mattina, quando sorge il sole, mi sveglio e so già che non riuscirò a correre più veloce della gazzella. Così mi tocca ucciderla la sera prima. E questo, devo dire, è molto seccante per i leoni, perché ai leoni piace fare colazione con una gazzella calda al mattino, la gazzella fredda proprio non gli piace. Il re continuò: per scegliere l'animale più adatto ho pensato a una gara tra voi. Attraverso la foresta, chi vincerà sarà eletto nuovo re, ma vi avviso, chi arriverà ultimo sarà divorato senza pietà. Accettarono la sfida in quattro. Il lupo, che disse: vincerò io, perché sono il più forte. Il pavone, che disse: vincerò io, perché sono il più bello. Il topolino, che disse: vincerò io, perché sono il più furbo. E l'opossum, che disse: vincerò io, perché ho uno zio assessore. Gli animali si misero dunque in fila per partire. Prima il lupo, poi il topolino, poi l'opossum e in coda ovviamente il pavone. Il vecchio leone sbranò un cerbiatto, il cui grido di dolore funse da start e gli animali cominciarono a correre nella foresta. Il topolino però, che era il più furbo, pensò: se attraverso il lago guadagnerò del tempo. Solo che non sapeva nuotare. Chiese quindi aiuto ad una tartarughina. Tartaruga, presto, aiutami, devo attraversare il lago. La tartaruga rispose: certo, amico, ti aiuterò ad attraversare il lago. Sali sulla mia schiena. Il topolino ci mise quasi 2 ore ad attraversare il lago, perdendo molto tempo. Per recuperare decise di passare attraverso il campo fiorito, ma non sapeva bene la strada e dovette farsi aiutare da chi viveva in quel luogo, una dolce lumachina. Lumaca, svelta, spiegami la strada! La lumachina rispose: certo, amico topolino, ti aiuterò. Vieni dietro di me. Purtroppo questo fece perdere ulteriore tempo prezioso al topolino, che decise quindi di abbreviare la strada passando sui rami degli alberi. Ma anche lì aveva bisogno di una guida. Si guardò intorno, cercando sui rami un simpatico scoiattolo. Ma l'unico animale che vide fu un bradipo che lo fissava incuriosito. «E che cazzo!» disse il topolino. «Ma che sfiga!» Poi gli disse: «Bradipo, presto, aiutami!» Il bradipo, che per puro caso era un grande fan della Ferrari, rispose: «Certamente, amico, io posso farti attraversare questa foresta in un lampo». Perché è vero che era un fan della Ferrari, ma era pur sempre un bradipo. 3 ore dopo, finalmente, il topolino arrivò a destinazione, ma ormai era notte fonda. Era arrivato ultimo, e il vecchio leone se lo sbranò in un sol boccone, aspirando la coda come uno spaghetto. La gara era stata vinta ore prima dal lupo. Ma il vecchio e saggio leone quel giorno era particolarmente affamato. Quindi sbranò senza pietà anche il pavone, la tartaruga, la lumaca, il bradipo amante della Ferrari e infine anche il lupo che era arrivato primo. Poi elesse come un ovorello possum perché effettivamente doveva un favore allo zio assessore. Subito dopo però ci ripensò e sbranò anche l'opossum. Una nota. Il bambino mezzo addormentato potrebbe chiedere: ma scusate, ma cosa ci fa un leone nella foresta? I leoni vivono nella savana. Ebbene, allora al bambino che sta per addormentarsi dovete dire questo: il leone è grande e grosso e vive dove cazzo gli pare. Se vuol vivere nella savana, vive nella savana. Se vuol vivere in un attico a New York, vive in un attico a New York. Se vuol vivere sotto il letto di bambini curiosi, ci dorme. A proposito, cos'è quel grattare sotto il tuo letto? Buonanotte e un bacio. Il mio compare non c'è più, Alberto Vitale! Sì, scusate, un po' rallentatore. Uè, compà! Abbiamo ancora Alberto due... Alberto Vitale! Terza volta! Alberto Vitale! Tu sai cosa succede adesso? No. Perfetto, come sempre. Grazie. Se vuoi racconto una cosa io. Ti va di ascoltarmi? Allora vado a fare in culo. Bravo. Allora faniti! Grazie, mi piace quando una persona si alza e c'è grandissimo entusiasmo. Sempre bello incominciare così davanti a voi. Non ti preoccupare, non sei tu che mi stai deludendo. Stasera come va? Oh, che entusiasmo, va bene, come va? Tutto bene. Io stasera non vi racconto niente di che, ma vi racconto delle cose legate alla mia età, perché quest'anno faccio 40 anni. Beh, grazie, non ho detto ho vinto il Superenalotto, ho detto faccio 40 anni. Tu quando li hai fatti, Enrichetto? Tra quanto li fai, Enrichetto? Oggi cos'è il 16 marzo? Non lo so. Vabbè, io faccio 40 anni quest'anno, quindi questi a novembre, quindi ancora qualche mese da 39enne, ed è un passaggio un po' delicato entrare nei 40, un passaggio un po' particolare per tutti, perché diciamo finisce ufficialmente l'età dell'adolescenza, finisce il momento delle canne, è ora di diventare uomini e passare alla cocaina. Cocaina con la quale io tra l'altro ho un buonissimo rapporto. Grazie, perché sono secco, ma le ultime volte che l'ho presa non mi si rizzava il cazzo, quindi ho smesso di prenderla e secondo la mia esperienza ho ribattezzato il famoso detto popolare tutta la notte coca e mignotte in tutta la notte coca è un cazzo di 5 centimetri che sembra un fagiolino immobile che sembra Pier Giorgio Welby. Visto che non mi veniva più duro, ho smesso totalmente di pippare, ma sono passato ai funghi allucinogeni. Qui niente, bravo, sulla coca sì, sui funghi niente. Bravo. Grazie, abbiamo preferenze di droga, fa capire molto che tipo di pubblico siete. Esatto, hai detto bene, dannaroso. Ah, comunque, prima di parlare di funghi, una domanda, una curiosità che mi sono indicato prima. Ma secondo voi, i non vedenti, i ciechi, come fanno a pippare? Grazie al cazzo, col naso. Aspetta, pippare fa come fanno noi, fanno come fanno noi, ma pippare è una, come dire, una cosa che necessita di tutta una serie di azioni particolari, cioè prima prendi la coca, la butti sul tavolo dove cazzo vuoi, sul CD come si faceva 20 anni fa, prendi la carta di credito, la sminuzzi, prepari la strisciolina, prendi la banconota, la rotoli del diametro giusto, porti la banconota al naso e poi ti posizioni esattamente sulla strisciolina di cocaina, è un'azione molto precisa. Come fanno i ciechi a essere così precisi? Non lo so bene, ve lo domandate voi. Io ci sono... Sì, ce lo domandiamo da anni, ma ce lo dirai... Certo che te lo dico io, Enrichetto. I ciechi non fanno la striscia, anche avendola caricata tantissimo, che se non fa ridere è una puttanata, ma oramai c'è un'aspettativa altissima. I ciechi non fanno la strisciolina come facciamo noi, col cazzo. I ciechi buttano un tappeto di coca, fanno tipo aspirapolvere e quello che pippano, pippano. Da qui ne consegue che i ciechi cocainomani sono ricchi. E io, visto che ricco non sono, e dato che pippare per non scopare non ha nessun senso, ho smesso di pippare, l'ho anticipata prima, ma ho cominciato appunto con i funghi allucinogeni, che sono una meraviglia. La prima volta che li ho presi abitavo ancora a Mantova, la città da cui vengo, ed è stata una cosa normale, canonica, classica. Questo mio amico prepara un grammo a testa, fungo secco, prendiamo appunto questo grammo di fungo secco. Quando tu prendi il fungo, poi devi aspettare che l'acidità dello stomaco vada a fare contrasto con il fungo, perché tenta di digerirlo, e tipo in 40-45 minuti partono gli effetti allucinogeni. Questa è la prima volta, di routine. Seconda volta che lo faccio, passa molto tempo, e abitavo già a Milano ed ero a casa di questo mio amico, un comico che tra l'altro si è esibito anche qua, ma non farò nomi. Ho detto non farò nomi, ma hanno fatto i nomi al posto mio. Che è Pollice Verde, perché lui coltiva ganja, coltiva zafferano, coltiva basilico e tra l'altro fa un pesto buonissimo, ma questa è una particolarità. Andiamo a casa sua e lui ci dà anche lì un grammo a testa di funghi secchi, ma li tritura nel mortaio, ed è in quel momento capisco come mai il suo pesto è così buono. Li tritura nel mortaio e ci fa bere assieme un decotto di acqua e limone, in modo tale che l'acidità del limone faccia effetto subito, così tu non devi aspettare 40 minuti che faccia tutto il lavoro lo stomaco, perché siamo a Milano e anche se ci stiamo drogando c'è fretta. Siamo sul terrazzo, giornata primaverile, vendiamo sti funghi, tempo 10 minuti, c'erano tutte le eder, davvero un bellissimo terrazzo con i fiori, con le piante. Tempo 10 minuti, a sti due ragazzi, i miei due amici, quello che è venuto qua, Robin e un altro, iniziano a fare effetto. Diventano molli, iniziano a sorridere come lieviti, iniziano a fare delle cose strane. A me è un cazzo, io ero impassibile, completamente immobile, un monolite, peggio di Pier Giorgio Welby. Prima volta fa ridere, la seconda forse no. Però è giusto, uno deve sempre provarci, non si sa mai quante volte può far ridere dire Pier Giorgio Welby a una serata comica. Magari 10, magari 2, chi lo sa. Comunque, passano altri 10 minuti al che decido di rilanciare e faccio una canna, perché mi hanno chiamato qua per drogarmi, mi avete fatto bere il decotto, che cazzo stiamo facendo? Stiamo perdendo del tempo. Niente, non fa effetto. Loro oramai sono nell'iperspazio, nell'iperuranio, sono a piedi nudi, danzano, ballano, sembrano delle ninfe, sembrano Marina Bravoci e il marito che fanno delle cose a caso. Quindi Marina Bravoci e il marito. Niente di più, niente di meno. Passano altri 20 minuti, nessun effetto. Al che la persona, il proprietario di casa, mi dice: "Toh, mangiati sto biscotto alla ganja". Mangio il biscotto alla ganja, tempo 10 minuti, inizio a vedere l'edera che si muove, tutto diventa giallo, i colori molto accesi, capisco il senso della vita, ma non ve lo dico perché ci dovete arrivare da soli. Un anno fa sono stato un mese in Colombia, ho fatto un mese intero, e a scapito delle aspettative, anche un po' degli stereotipi e dei pregiudizi che uno può avere, nei primi 20 giorni che sono stato in giro per la Colombia mi hanno offerto la coca solo 3 volte, poco. Al parco di Rogoredo, secondo me, ce la giochiamo meglio. Tant'è che gli ultimi 10 giorni di vacanza, quando hanno scoperto che io ero di Milano, erano i colombiani a chiedere a me la coca. Ma io purtroppo non ero passato per il parco di Rogoredo e quindi non ho potuto aiutarli. Adesso voglio chiudere con una cosa che non c'entra niente con la droga, ma devo cambiare argomento perché sennò non so cosa raccontare. E quindi vi racconto una cosa che ho già raccontato, ma c'è tanta gente nuova, magari non l'ha mai sentita. È una cosa breve, è successa 20 anni fa, mi è successa 20 anni fa, quando avevo 20 anni, ed è un episodio di molestia sessuale che mi vede coinvolto in prima persona, come vittima. Giusto specificarlo. Dal vostro silenzio mi pensavate carnefice. No, non sono come quelli che si sono esibiti prima. Comunque all'epoca avevo 20 anni, facevo l'università, avevo l'ambizione di scrivere, volevo fare lo scrittore, libri, romanzi, giornalista, sa il cazzo quello che era, e appunto tramite mio padre, che all'epoca ha 60 anni, aveva 60 anni, mio padre Roberto, conosco un suo amico coetaneo, sessantenne, di nome Roberto, guardate un po' che coincidenza, che di mestiere fa lo scrittore. Scrive dei romanzi storici, avete presente Valerio Massimo Manfredi? Ecco, questi sono ancora più brutti. Già i libri di Manfredi sono una merda, questi erano ancora uno step sotto. Quindi libri veramente di merda, con le crociate, cose storiche senza senso. Però questo qua scrive: io ero un giovane alle prime armi e vado da lui, facciamo una riunione perché questa persona vuole iniziare a scrivere con un ragazzo più giovane. Cioè, tu mi svecchi un po' il linguaggio, facciamo le cose assieme, prendiamo il pubblico giovane, prendiamo il pubblico dei vecchi, facciamo sta roba qua. Dico, va bene, iniziamo a scrivere, collaboriamo, io gli mando la roba, lui mi manda la sua roba, andiamo d'accordo, troviamo una quadra. Passa del tempo, va tutto bene. Ad un certo punto mi dice: stasera Andrea ti porto a Ferrara, che era 3 ore da dove abitavamo noi, da dove abitavo io all'epoca, c'è questa bellissima conferenza, vestiti bene, giacca e cravatta, si mangia, si beve, ci sono relatori interessantissimi, vedrai che ci divertiremo un casino. Andiamo io e lui, andiamo, conferenza, facciamo tutto, tornare indietro, metà strada, ad un certo punto, sulla via del ritorno, metà strada, non mi ricordo per quale motivo, non mi ricordo cosa dice, ma lui mette la mano sulla mia coscia, indugiando un po' verso l'interno coscia. Io non dico niente, lui non dice niente, toglie la mano ed è molto abile a cambiare discorso. Arrivo a casa sano e salvo. Non ci sentiamo per un paio di mesi, non ci sentiamo, non ci vediamo, non parliamo. E ad un certo punto mi richiama e mi dice: guarda Andrea, avrei bisogno di parlarti con urgenza. E dico, va bene Roberto, se hai bisogno di parlare con urgenza, vediamoci. Ci vediamo in macchina, luogo preferito del molestatore. Non so per quale motivo, ma il molestatore si sente a suo agio nella macchina. Siamo in macchina e mi dice: guarda Andrea, io mi trovo molto bene a lavorare con te, non menziona minimamente quello che è accaduto qualche mese prima, mi trovo molto bene a lavorare con te, ma capisci bene che devo sapere di potermi fidare di te al 100%. E gli dico: Roberto, ti puoi fidare di me al 100%, anche perché non ti ho denunciato, quindi voglio dire, ti puoi fidare di me al 150%. E lui: sì, ci credo, ma sai, ho bisogno di una prova fiducia. Gli dico: dimmi qual è la prova fiducia. E lui: mi devi fare un poppino. Strana prova fiducia, penso io. Però gli dico: guarda Roberto, così è un po' difficile, però capisci bene che io ti posso anche venire incontro. Mettiti nei miei panni. Anche io prima devo sapere di potermi fidare di te. E lui: ti puoi fidare di me? E io: ho bisogno di una prova fiducia. E lui: dimmi qual è la prova fiducia. E io: ho bisogno che ti fidi sulla fiducia. E lui: ma come faccio a fidarmi sulla fiducia se tu non fai la prova fiducia? E io: ma la mia prova fiducia consiste proprio nel fatto che tu ti fidi sulla fiducia. L'ho spiazzato. Sono andato avanti 30 minuti e alla fine l'ho mica convinto a farmi fare un pompino. Signori, è stato un piacere raccontarvi queste cose a voi. Non so come va la scaletta, anzi lo so, c'è il George Best della comicità milanese, il cavallo pazzo, guardatelo, si alza prima che lo chiami. Signore e signori, Enrichetto Veronica! Grazie, cerchiamo di alzare un po' i ritmi perché c'è una ragazza carinissima, ti sei addormentata, Tobi, sei dolcissima. Come ti chiami? Zucchero, giustamente ti sei addormentata, una serata di merda, cioè, diciamo, cioè se entrassero quelli dell'ISIS modello Bataclan e aprissero il fuoco, cioè, per i pochi superstiti sarebbe il ricordo più felice e allegro della serata. Allora, sono Enrico Veronica, oh, c'è qualcuno che torna verso sud, Milano sud, devo alzare i ritmi perché la ragazza lì, com'è che ti chiami? Vesuvia? Su? Sofia, Vesuvia io. Sofia, se vuoi addormentarti, addormentati. Io però anzi, se ti disturbo fa Henry, cioè, un po' meno. Allora, c'è qualcuno che va verso Milano Sud, dopo mi dà un passaggio in macchina. Ora io chiedo il passaggio in macchina sempre prima di esibirmi. Perché dopo una mia esibizione, generalmente nessuno trova un posto in macchina nella sua macchina per me, se non in modalità Aldo Moro. Oh, e questo era così, per ricordare l'agguato di Via Fani, che era esattamente oggi, qualche anno fa. Cioè, perché noi ci ricordiamo sempre delle istituzioni, noi sì. Allora, io sono un esponente della stand-up comedy italiana, io sono uno dei pochi che ha portato la vera stand-up comedy americana in Italia. Ora, stand-up comedy americana è una stand-up comedy normalissima, solo che alla fine dello spettacolo sarete tutti bombardati con del napalm! È così che funziona. Per questo sono richiestissimo, per meeting aziendali, feste, battesimi, cene all'americana. Le cene all'americana sono cene normalissime. solo che nel buffet c'è il napalm! E basta. E la roba napalm l'abbiamo chiusa. Pensate, questi sono i miei cavalli di battaglia. Questi sono i pezzi belli, questi miei. Cioè, pensate quelli brutti. Avrete notato una cosa qua? Io in realtà dici, c'è il cerottone. Io dico sempre che... Sì, perché se mi sono tatuato tutto un dragone... No, è quello della cervicale, ragazzi. Non è una roba comica, è una triste vita. Comunque, non pago. Dopo aver portato la stand-up comedy americana in Italia, ho portato la stand-up comedy italiana in America. E ora ci vogliono bombardare. Cioè, ci odiano quasi più della Corea del Nord ormai, perché è così, è l'effetto stand-up comedy italiana, è così. Prossimo step, voglio portare la stand-up comedy cinese in Tibet. Ora, in realtà la stand-up comedy cinese in Tibet l'avevamo portata già anni fa, ma i tibetani non l'hanno capita. Perché noi non riusciamo a capire davvero, a penetrare i misteri degli humor di altre culture. Cioè, per esempio, noi diciamo sempre che i tedeschi non fanno ridere. Cioè, siamo noi che non li capiamo. Cioè, per esempio, ieri a Napoli... Cioè, loro pensano di fare una gita festosa. Cioè, bah, sono loro che non ci capiscono. Negli anni 40, loro... pensate cosa sto per dire. Loro negli anni 40, tutta la storia dei rastrellamenti, campi di concentramento. Dice, beh, ma a noi fa ridere. Magari fa ridere anche agli altri. Se a noi che non capiamo gli humor tedesco. Ragazzi, Derrick. Noi Derrick lo troviamo una cosa obbrobriosa, noiosa, squallida. In Germania è una sitcom, eh? È il Big Bang Theory tedesco. Se a noi che non capiamo gli humor, ma è normale. È una cosa normale. È una cosa. Nietzsche. Ho visto che anche io voglio parlare di Nietzsche. Nietzsche, in realtà, tutti i suoi libri li voleva chiamare Le barze di Nietzsche. Dicevo, a me sono cose che a me fa ridere. Farà ridere anche gli altri, perché è così. Se a noi che non capiamo gli humor tedesco. Ma già che ho parlato dei nazisti, faccio una piccola cosa. Però i nazisti erano eleganti, eh? No, che poi dite il Veronica parla sempre bene di dell'eleganza dei nazisti, dai. È innegabile. Con quelle loro belle divise, grigie con gli inserti neri ad oro. E quelle nere ton su ton. Tutti con quel bel manicotto rosso a spezzare, come erano eleganti. C'è da dire che quello è stato l'apice dell'eleganza dei tedeschi, eh? Poi sono passati da quello ai calzettoni di spugna coi sandali, perché i tedeschi sono così, non ha i tedeschi bianco nero. I tedeschi non ha mezze misure, i tedeschi, cioè pensate ai tedeschi famosi, Ratzinger e sarò il papa di tutti, cioè dopo mezz'ora fa no, mi sono rotto i coglioni, me ne vado. Solo un tedesco poteva farla sta cosa. Perché i tedeschi, cioè così, Schumacher. Cioè Schumacher 30 anni a 300 all'ora non si fa un graffio, fa una gita sugli sci una domenica, bam, in coma 20 anni. Cioè, ma ci avete mai riflettuto sul dramma umano e sportivo di Schumacher? Cioè, per 20 anni a 300 all'ora non ti fai nulla, fai una domenica sugli sci, vai in coma 25 anni. È come un porno attore che si piglia una malattia venerea grave, mortale, masturbandosi da solo a casa, è un dramma, perché i tedeschi sono così, i tedeschi così. Nietzsche, visto che l'abbiamo citato, cioè, Nietzsche, cioè, passa dalle barze di Nietzsche a Dio è morto, dai Federico, cioè, una via di mezzo, no? Tipo, dalle barze di Nietzsche, poi fai, vabbè, ci sono un italiano, un inglese, un francese, Pierino e Dio. Però Dio non ha una bella cera. E i tedeschi non riescono a fare così, i tedeschi. O bianco e nero, sono pazzeschi loro. Sono dei tipini. Comunque io, ora che mi sono scaldato, ragazzi, ma l'Academy? Mamma mia, l'Academy è un cazzo duro pazzesco, eh. Dai, ma diciamo le cose come stanno. A me i posti d'avanguardia piacciono, eh. A me piacciono, io... Mi sono formato lì e lì sono rimasto anche. Io non ho avuto il successo planetario come comico che meritavo. Molti di voi lo stanno pensando, ma come arriva Veronica? Perché non ho avuto? Ma è così, eh. È così. In realtà è strano che non abbia avuto successo, perché, ve lo dico dopo tanti anni, il mondo dello spettacolo è... proverbialmente quello che si dice, e io ho detto non posso fallire, ho fallito ovunque, non posso fallire nel mondo dello spettacolo, perché il mondo dello spettacolo davvero è un variopinto carrozzone di puttane, nani e ballerine, e io ho pensato non posso fallire, cioè sono la sintesi delle tre cose messe insieme, perché che sono una puttana e un nano è abbastanza palese, ma avrete notato anche tutte queste mie mosse sinuose. È tutto coreografato, è tutto coreografato, niente lasciato al caso, anche perché avrei avuto in sorte un fisichino sexy, minuto, scattante, come un Ether Parisi del 1978, e non sfruttarlo, beh, sarebbe stato uno spreco, un inutile spreco di carne e talento. Sofia, questa scellerata l'ho fatta tutta per te, eh? Perché ho visto che ti stava venendo lo svarione, eh? Oh, ragazzi, perché l'Italia non si può aver successo, no? Perché in Italia, perché in Italia c'è il nepotismo e lo sappiamo tutti, e i figli di Tognazzi, i figli dei Pooh, voi la sapete la storia di Pooh, no? Ve la devo raccontare io? Sì! Allora ve la racconto. Beh, i figli dei Pooh, se non la i figli dei Pooh li hanno fatti in laboratorio negli anni 70, il governo Nixon, per la guerra batteriologica, per la guerra chimica, li hanno fatti incrociando tutte le varie copie di Pooh possibili. Red Kanzan con Dodi Battaglia, Dodi Battaglia con Stefano Dorazio, Stefano Dorazio con, chi sto dimenticando, Facchinetti, fatele voi tutte le copie, spargendo ogni tanto jolly il seme di Riccardo Fogli. Perché vi dico questo? Un po' per farvi capire che tutto quello che dico ha delle basi scientifiche solidissime, e un po' per farvi notare che sono il nome di tutti i Pooh, che ci tengo, che ci te- perché in Italia è così. In Italia è così, se non hai un padre, una madre famosa, non fai successo. Poi ci sono le eccezioni, eh. La Franzoni, per esempio, è diventata famosa grazie al figlio. L'eccezione, queste sono le famose eccezioni, però, che confermano la regola, ma in Italia è così, c'è il nepotismo, che poi non chiedo tanto, e qui sì che mi alzo, Sofi. Però stai limonando con Miguel? Miguel, raga, Miguel è un tipetto, eh? Sofi, hai pescato bene, zia. Quello sì che ti tiene sveglio. Mamma mia, io starei tutta la sera, tutta la vita a parlare con loro, invece devo chiudere, cos'è che stavo dicendo? Mamma mia, ogni tanto divento un po' così io. Perché io non ho mai capito? Cioè io non ho mai capito la mia sessualità, poi fate, ricordatemi di cosa stavo parlando, perché poi vado a chiedere se me lo ricordo, no? Manzoni, ma vogliamo parlare invece del Pascoli che si inchiappettava la sorella? Ma quello è stato un momento bellissimo di poesia, di cultura, altro che stand up comedy e cabaret, ma qua si fa cultura, cazzo. Io comunque a Valerio Irò lo sputo stasera, perché mi ha detto ma stasera ti sputo, sta mangiando il figlio di Troia. Allora stavo dicendo, io non chiedo tanto, e mi alzo ancora di più, non chiedo tanto, io voglio quella fama tipica italiana, perché io sono uno che carburo col tempo, avete notato sta roba? Allora, io voglio quella classica fama italiana che si conclama alle 4 del mattino, in replica, su Rai 1, con Marzullo, che ti fa una domanda a quelle attricette squalide dal nome e dalla faccia insipida e sconosciuta. Ma allora, com'è che è cominciata la tua carriera? E quelle rispondono sempre, ah, dottor Marzullo, poi qualcuno ci dirà in cos'è dottore Marzullo però, un giorno, ah, dottor Marzullo, sapeste, io non volevo neanche fare l'attrice, è che ho accompagnato una mia carissima amica a fare un provino, e poi non ci crederà, lo so cosa sta per dire, ci crediamo, non ci crederà, ma non hanno preso lei, hanno preso me, la mia amica adesso fa l'estetista da Fragola. Allora io questo è quello a cui aspiro, una fama, un talento riconosciuto che non ha nulla a che fare con la meritocrazia, tanto vituperatene, tanto quanto con il talento, ma una fama che si basa su una splendida amicizia distrutta per sempre. Questo è un valore a cui aspiro. Tra l'altro sta cosa qua, da Marzullo, è successa anche a Don Bosco. Sì, voglio chiudere con un rimando mistico. Don Bosco non voleva neanche farlo il prete, la sapete questa storia? La sapete già, perché ridacchiate, la sapete! Ridacchiate, secondo me la sapete. Don Bosco non voleva fare il prete, lui aveva accompagnato al seminario un suo amico. No, allora la sapevate un po', cioè. Lui non voleva fare il prete, lui aveva accompagnato al seminario un suo amico, cioè, poi l'amico non l'ha preso, ha preso Don Bosco. Pensa, Don Bosco non sapeva neanche cosa fosse un seminario, pensava, aveva accompagnato l'amico perché pensava fosse un posto pieno di figa, figuratevi. E beh, perché succede così in Italia, succedono queste cose. E ora chiudo con delle battute orribili, però tipo pa. Miguel, ma Miguel tu sei italiano? Ah. Miguel come Bosè, come Bosè. Michele, ma perché io, hai capito, dalla seconda fila in poi divento cosmopolita io, cioè in realtà sei di Tivoli, cioè, hai capito, cioè, sei di Tivoli proprio, eh? Ma io c'ho l'occhio, raga, io c'ho l'occhio, sono così, sono una pazza io a quest'ora, mamma mia, dovevamo cominciarla alle 11 la serata, così quando salgo su io è una pazzia totale. Stavo dicendo delle battute per chiudere perché mi sento veramente ok con voi, mi sento ok. Allora prima clinica. Però è difficile perché devo uscire un po' da questo personaggio che mi ero costruito, che era bello, mi spiace. Allora, dottore, devo premettere, io le battute le interpreto molto, quindi faccio diversi personaggi, voi potreste rimanere, ma quel ragazzo è un attore nato. Dottore, allora adesso che sono arrivati i risultati delle analisi, possiamo prendere un appuntamento per settimana prossima per una visita di controllo? Sì, così la voglio, ottimista, settimana prossima, sì, ottimista! Ora io voglio andare contro una narrazione in voga, soprattutto nei social ultimamente, e io sono una voce contraria, una voce contro. Io in realtà trovo Alice Lane fisicamente molto carina. Ora, e qua già la gente ride, io vedi com'è la gente? Devo dire però, a me fisicamente trovo anche Giorgia Meloni belloccia, però io forse non faccio testo, perché io anche a Mattarella, paio di bottarelle, questa è la politica, perché ci mette la medicina, la politica, e ora vado a chiudere in realtà con un... Ah cazzo, su Berlusconi non ho niente, ragazzi. Volevo chiudere con un inno di speranza. Voglio chiudere con un inno di speranza. Però la voglio interpretare. Lo vedete prima io le faccio su Berlusconi. Dai, se no non chiudiamo più. Tesoro. Ah no, poi ne devo fare un'altra dopo. Io sono peggio dell'Accademia ormai. La penultima. Tesoro, ma i nostri figli sono gemelli siamesi? La sapete già? No, penso di no. Ma che cazzo stai dicendo? Allora guarda che si stanno inculando. Ora però, no, davvero, faccio la chiusa bella. Mamma mia ragazzi, io vi voglio bene, che belle serate che sono, che belle. Allora pensate a John Fitzgerald Kennedy e a suo fratello Bob. Siamo negli anni 60 per forza, perché gli anni 70 insomma non è che li hanno visti tanto. Sono al cenone di Natale, loro molto cattolici, una famiglia patriarcale con tutti i nipotini biondi, belli, i cherubini, l'albero. John e Bob sono di fianco e John dice a Bob: Bob, certo che noi siamo ricchi. Cazzo, John, va che roba. Siamo belli, e beh, puoi dirlo forte, John. Siamo giovani, oh sì. Siamo potenti, sì. Hai detto giusto. Siamo potenti. Ma chi ci ammazza noi? Enrichetto Veronica, signori, siamo addirittura d'arrivo. Abbiamo solo due comici, quindi senza indugi chiamo l'unica quota femminile di questa sera. Vuoi salire anche tu, Valerio, con me che la chiamiamo? Ma non abbiamo solo un comico ancora. Sì, però tu non puoi non sapere un cazzo. Non chi puoi... è l'altro? Era una sorpresa, se me lo fai dire rovino la sorpresa. Sorpresa. No, ma te l'ho detto prima. Non me l'hai detto. Sei sicuro? Non è che l'hai detto. Va bene. Capito. Quindi chiamiamo la quota femminile della serata, Silvia Conti. Silvia Grandissimo Conti! Applauso. Grazie, grazie. Anche senza posto così. Io adoro queste serate e voi potreste pensare è per lo stimolo creativo che ricevo dagli artisti dell'Academy o forse è per il confronto con il pubblico. No, io amo queste serate perché mi permettono di spalare merda su mio marito con un microfono in mano. Parliamo di vacanze. Tutti dalle vacanze vogliamo qualcosa. C'è chi si vuole rilassare, c'è chi vuole rimorchiare, c'è chi viaggia per trovare se stesso, perché viaggiare è una passione, come scrivono sul curriculum quelli bravi, quelli che poi vengono chiamati a fare colloqui al posto mio, che invece di solito nella sezione interesse scrivo podcast di true crime in cui l'omicida è una donna e il delitto avviene in ambiente di lavoro. Io dalle vacanze voglio solo una cosa, le foto per i social. Io voglio delle foto che facciano vedere ai miei contatti in quali e quanti posti pazzeschi sono stata, perché ok che viaggiare è una passione, però io sono nata a Ligure, quindi sono particolarmente oculata nei confronti dei soldi che escono dalle mie tasche, ma vivo anche a Milano da 20 anni e ho interiorizzato anche questa cultura del fare gli sboroni o, come si dice al giorno d'oggi, del flexare. In particolare dalle vacanze voglio delle foto in cui sembra che sono buona, delle foto che mi sfinano, delle foto che potenzialmente userei su Tinder se tornassi single. Io non mi vergogno di dire che questo delle foto delle vacanze in cui sembra che sono buona è il mio più grande desiderio nella vita. Cioè io proprio se trovassi la lampada magica la sfregherei, al genio chiederei foto in cui sembra che sono buona. E questo è il momento in cui potete giudicarmi e sentirvi delle persone migliori di me, perché la stand up serve anche a questo, altro che quella puttanata della catarsi del teatro greco. Tra me e questo grande desiderio, le foto in cui sembra che sono buona, si frappone però un ostacolo. L'ostacolo è che io non sono single, sono sposata. E le foto me le deve fare mio marito, che è un incapace, che sto cercando da anni di trasformare in un decente foto marito. Nell'antichità era tutto più facile. Prendete ad esempio De Sica. Aveva preso delle persone comuni dalla strada e le aveva trasformate in attori e di botto ladri di biciclette. Golden Globe, Oscar onorario. Pure per me forse sarebbe più facile vincere un Oscar anziché riuscire a trasformare mio marito, per quanto preso dalla strada, e vi giuro che se lo vedeste capireste quanto è preso dalla strada, piuttosto che riuscire a trasformarlo in un vero fotomarito. Se parlo di fotomariti, comunque riuscite a capire di che cosa parlo, anche se non seguite quelle pagine tipo Boyfriends of Instagram. Se siete stati in vacanza al mare, ne avete visti a decine, appesi agli scogli durante una mareggiata con la macchina fotografica al collo. In montagna erano appesi alle ferrate, senza imbragatura, sempre con la macchina fotografica al collo. E qua a Milano ne vediamo a decine, sdraiati a pancia in giù sulle rotaie del tram, ma non quelle dismesse, quelle in Duomo dove passa un tram ogni 3 minuti. Ovunque voi abbiate visto un fotomarito, egli stava rischiando la vita per fotografare la sua donna e aveva tutta la mia ammirazione. E dico ammirazione perché qua dietro non abbiamo il proiettore, altrimenti avrei messo la gigantografia di quel meme della ragazza orientale con le gambe spalancate sopra la fontanella che sgorga, perché quello è il tipo di ammirazione che mi suscita un fotomarito. all'inizio della nostra relazione io e il mio attuale fotomarito promette bene, e qua avrete notato il cambio di tempo verbale, di tono di voce, di ritmo, come si fa nei podcast di True Crime per riacchiappare l'attenzione del pubblico. Ci frequentiamo da qualche giorno quando lui mi dice: sei carina stasera, ti faccio una foto. E io gli dico: ma no, ma dai, indosso solo uno straccetto. E in effetti indosso 150 euro di vestito che ho comprato 2 ore prima perché ero disperata, e 300 euro di scarpe che mi stanno anche facendo sanguinare i piedi perché le ho prese di un numero più piccolo, una svendita online, un giorno in cui ero un preciclo. Però una volta in un podcast di True Crime ho sentito dire che il preciclo può valere come attenuante nei casi di omicidio, e quindi non vedo perché non posso farlo valere io il preciclo come attenuante per lo shopping compulsivo. Comunque quella sera lui mi chiede una foto, io gli dico di no, poi mi metto in posa ma non troppo, lui scatta e io subito mi avvento sul suo telefono e gli chiedo: mi fai vedere com'è venuta? È lì che rivelo la mia vera natura di committente e inizio con le mie richieste, tipo: mi fai una foto a figura intera, però taglia le ginocchia. Sì, devi prendere dalla testa ai piedi, ma devi tagliare le ginocchia perché le mie ginocchia sono un po' grassottelle e mi mettono a disagio, grazie. Sì, devi tenere le scarpe da 300 euro. E sarà perché è l'inizio della nostra relazione, ma lui si impegna e ce la fa, sembra un genio, sembra il Cartier-Bresson del Samsung S20, riesce a farmi una foto a figura intera in cui mi taglia le ginocchia. Lui pensa che saranno foto destinate a un ricordo interno della coppia, illuso. È tutto materiale per i miei cazzo di social. È lì che lui inizia a capire che nella dinamica della maledetta coppia eterosessuale della quale è entrato a far parte, da quel momento in poi si dovrà immolare per il bene supremo, che è la soddisfazione della committente nei confronti della propria immagine sul cellulare, e soprattutto la soddisfazione della committente nei confronti dei like ricevuti su Instagram dalle sue amiche. Laddove per amiche ovviamente intendiamo le competitor nella guerra senza quartiere delle foto in cui sembra che sono buona, e dai suoi amici, laddove per amici naturalmente intendiamo gli ex fidanzati che devono vedere bene che cosa si sono persi, bastardi, e magari farsi scappare qualche like mentre scorrono il mio feed per dedicarmi una sega commemorativa. Nel corso della relazione io organizzo anche dei viaggi, scelgo le destinazioni in base alla palette del mio feed e al fatto che da lì sia passata a Chiara Ferragni, un po' come nel Medioevo si organizzavano le gitarelle, quelle sulle orme dei santi, credo per farsi fare dei ritratti senza prospettiva con gli stessi sfondi che erano di moda sulle pale d'altare. Le foto non mi bastano mai, io ne voglio sempre di più e le voglio sempre più artistiche. Una sera siamo sui Navigli e ho un'idea geniale. Gli dico: devi farmi una foto presa dal basso che metta in evidenza il quadricipite che mi sono fatta quest'anno in palestra. Però non deve essere una foto posata, tutta impostata, rigida, deve essere una cosa più tipo scatto rubato, foto che tu mi fai di tua iniziativa senza che io me ne accorga, per cogliere questo mio momento di straordinaria eccellenza muscolare. E questo è uno dei ricordi più belli della nostra coppia, perché lui quella sera è stato super proattivo, si è buttato nel Naviglio e dal basso, con l'acqua fino alla cintola, ha scattato verso il mio quadricipite. Poi vabbè, ha preso la multa perché la balneazione nei Navigli è vietata, e gli sono venuti funghi sulle cosce, anche sullo scroto, ha avuto prurito per un mese, però io quella foto ancora la uso come fotoprofilo su LinkedIn, e su Instagram ben 3 dei miei ex mi hanno messo il like. Grazie, e ripasso la parola ai conduttori. Silvia Conti! Signore e signori, abbiamo finito, abbiamo l'ultimo comico, poi questo sequestro di persona per questa sera è finito. Quindi è con grande piacere che chiamo sul palco, se lo sa, ma lo vedo più o meno addormentato, te la senti? Di farci un pezzo, Andrea Di Marco! Intanto che il maestro Di Marco si prepara, faccio... Sì, una... no, sono già pronto. Me ne posso andare? Allora me ne vado. Va bene, ciao, ero quello all'inizio, vi ricordate che avevo fatto anche... No, perché la gente poi... Grazie! È vero? Adesso mi sono tolto gli occhiali, ma avete riconosciuto. Tra l'altro sono concittadino della ragazza che era qui e mi sono ritrovato molto nel suo fisico. E, però mentre lei è molto spigliata nelle cose, io invece ho sempre questa sensazione di... siccome io sono una persona un po' mite, un po' con la cresta bassa sempre, ho sempre la sensazione di sembrare un babbo di minchia, no? E, sei di nuovo addormentata, fagli una... non ti puoi mettere qua davanti così... Allora, c'ho questa roba qui, babbo di minchia, e, non so se c'è qualcuno che ha la stessa sensazione quando si trova nella... Ad esempio, in questo momento, dai vostri sguardi mi sembrate che mi state guardando come dire minchia che babbo di minchia. E... fondamentalmente è dovuto a due motivi. Uno è sicuramente la timidezza e l'altro è che sono un babbo di minchia e quindi questo conta. Sono andato perché uno diventa babbo di minchia, perché si sente babbo. Ho fatto dalla psicologa da 10 anni e santa donna, non finirò mai di ringraziarla. Tutte le volte che vado da lei, lei mi guarda e fa: lei è? E io sono Andrea Di Marco. Ah, il babbo di minchia, si accomodi. E tra l'altro alla fine, poi quando gli do 80 euro, ho proprio la sensazione fisica del babbo di minchismo, no? Da dove viene? Da dove nasci, cresci, secondo me conta, no? La città dove nasci e cresci ti parla continuamente, no? Cioè se tu nasci a Roma, questa città che è la capitale della bellezza, dell'archeologia, della cristianità, del rinascimento, c'è sempre questa città che dice ammazza quando sei fortunato che sei nato qua, vabbè, abbiamo cioè, buche, traffico, ma tu sei nel centro del mondo. E tu infatti diventi un po' spocchioso come i romani, non so se c'è qualche romano qua, no, te, di Guidonia non c'è, tu sei romana? Beh, quando sei sveglia, un po' spocchiosa, lo sai, poi quando ti addormenti diventi più milanese. A Milano c'è questa città che continuamente ti dice insegui i tuoi sogni, spacca il culo, fate il culo e spaccherai il culo ai passeri. Infatti a Milano pochissimi passeri si vedono. Quelli che ci sono, vabbè, questo è un po' omofobico. Io invece vengo da Genova e... come Silvia potrà confermare, Genova è una città che continuamente ti dice ma dove cazzo vuoi andare? Genova è una città, non so se ci siete mai stati, andateci perché veramente vale la pena vedere tutta questa gente mogia con pessimismo dentro, no? Cioè, in realtà ci sono degli ottimisti a Genova, 4 o 5, ma anche gli ottimisti sono pessimisti. Cioè, è gente che vede il bicchiere di vino mezzo pieno, cioè, sa di tappo, no? Quindi c'è questo modo di essere sempre... Se uno ti telefona e dice, come va Andre? E dice, bene... Poi lo metti in difficoltà. Devi sempre trovare... No, guarda, c'ho mia zia che sta morendo. Ah, beh, mi dispiace. Poi magari dopo un mese ti richiama. E tua zia come stava? Beh, è morta. Beh, poi allora su WhatsApp tutte le condoglianze. Vabbè, noi viviamo a Genova, passiamo il tempo a mandare condoglianze per gente che non è mai morta, no? Quindi... ma perché Genova ha questa roba, no, di disillusione, di... che non puoi sognare, vero? Non so se dico una minchiata, però non puoi sognare, no? Mi ricordo, se poi qualcuno ha un po' di successo, cose così, lo vive male la gente, non è contenta. Io mi ricordo una volta, mi avevano convocato a quelli che è il calcio, vi ricordate una trasmissione che si faceva la domenica, allo stadio, e mi facevano fare il collegamento dallo stadio, no? Mi vede uno steward all'inizio, quando dovevo prepararmi, ma guardato con la faccia come dire, qui viene a mangiare a UFO qua, no? Ah, vieni anche te adesso, t'han chiamato, no? Gli scazzava. Il collegamento è andato bene, non so, la settimana dopo, cazzo, mi hanno rivoluto lì. Quindi arrivato di nuovo, mi ribecca sto steward, mi guarda e fa, ormai vieni sempre. Cioè... gli scazzava veramente, per fortuna che in quel collegamento ho fatto schifo, non mi hanno mai più chiamato, così sono rimasto. Perché? Ma perché Genova è così? Io ho questa mia teoria. Genova, non so se avete studiato nella storia, nelle repubbliche marinare, nel Medioevo, Rinascimento era una delle città più potenti al mondo, no? Come New York, Londra adesso. Poi... c'erano tutti questi traffici, no, nel Mediterraneo, commerciale, Genova, gente attaccata ai soldi, facevano soldi a palate. Poi a un certo punto scoprono l'America, tutti i traffici si spostano sull'Atlantico, partono l'Inghilterra, il Portogallo, la Spagna e Genova, piano piano declino, no? Chi ha scoperto l'America? Cristoforo Colombo, un genovese. Quindi praticamente è come se ci fossimo fatti del male da solo, come se una parte di noi ci avesse inculato, no? Come se tu torni a casa e vedi uno che sta trombando tua moglie, guardi bene, sta trombando con il tuo cazzo. Ti gira la minchia, no? La vedi di... Che poi a me è successo davvero che ho beccato mia moglie, però invece lo faceva con il suo cazzo quello lì. Aggravante, sì, c'è aggravante, o no, come se, una cosa che peggiora la mia cosa, perché io con Silvia non sono anche dello stesso quartiere, che si chiama Bolzaneto, non so se avete mai sentito, è un quartiere periferico, un po' come può essere Baggio, Rozzano, qui, no? Bucinasco, diciamo così, non so se tu sei di Bucinasco. Io quando sono cresciuto a Bolzaneto negli anni 80 avevo due possibilità: o cadevo nel tunnel della droga come tanti amici, tanti ragazzi, oppure invece suonando uno strumento come la chitarra riuscire a fare un percorso di emancipazione. E io ho imparato a suonare la chitarra 5 anni fa quando sono uscito dalla comunità e ho iniziato a fare... Questo era Bolzaneto, no? Questo quartiere è ancora più pesante, perché se a Genova vedi il bicchiere mezzo vuoto, a Bolzaneto il bicchiere se lo sono fottuto, no? Proprio. Io c'ho sta roba qua, quando vado al bar, che prendo il caffè, lo prendo senza zucchero, no? E mi piace dire amaro, come la vita. E il barista a Bolzaneto, al rotolo correggo merda. No? La cosa più allegra che c'è da fare a Bolzaneto è quella di guardare i manifesti da morto e smarcare. Pastorino è già uscito, la scorsa settimana, cinquina, siamo così a Bolzaneto. E poi c'è l'aggravante che sono i miei sono campioni mondiali di cresta bassa, di modestia, di vecchi comunisti, no? E mi hanno sempre abituato che non devo vantarmi mai di niente, no? E poi c'è questa roba qua dei bambini del Biafra, cazzo, quando eravamo piccolini io c'erano i bambini del Biafra, adesso no, forse sono morti tutti, non ci sono più, è vero, non si sente più parlare dei bambini del Biafra, però ai miei tempi i miei mi hanno insegnato che il bene singolo, il bene personale non può esistere se non c'è il bene collettivo, no? Io quindi c'erano questi bambini del Biafra, io quando pigliavo un bel voto a scuola non dicevo un cazzo di nessuno, dicevo magari i bambini del Biafra nessuno prende un voto così, no? Ero veramente in soggezione. I miei sono così, proprio cresta bassa, ai matrimoni si presentano in tuta, no? Per non fare... E, vabbè, altra parentesi, Maurizio Lastrico lo conoscete, è un comico genovese che adesso sta facendo, per fortuna è un amico, e faceva uno spettacolo nell'entroterra Ligure dove i miei vanno in vacanza, no? Allora mi telefona mia mamma, ma guarda, ho visto che c'è Maurizio, viene a fare lo spettacolo... Lo chiamo e lui mi fa avere 2 omaggi a 30 euro l'uno, sto bastardo, vaffanculo, lui è Don Matteo di merda. E vabbè, fatto sta che Maurizio Lastrico incontra i miei al bar prima dello spettacolo e fa una storia su Instagram, no? Dice: mi trovo qui con i genitori di uno dei più grandi comici genovesi, Andrea Di Marco, si gira verso i miei. Ed è su Instagram sta roba qua, c'è la prova proprio provata. Quindi questo è il background. Per fortuna poi che invece è arrivata, dopo l'eroina, è arrivata la chitarra e mi ha permesso di socializzare, di aprirmi. Allora io vorrei aprirmi con una canzone, se una volta ci riuscissi a capire qualcosa di sto cazzo di... una canzone... Che parli un po' di me, no? Che la cosa bella di poter scrivere della musica, non so se c'è qualche musicista, è veramente riuscirsi a raccontare. Se io attacco va? Ma. Boh. Arrivo. Arrivato. Ma che è staccato. Sì, ok. Avete da fare? Aspetta, Sofia, se vuoi fate un pisolino adesso, che okay? Approfittane che prima che attacca il jack. Così facciamo. Hai presente quella sensazione che poi diventa certezza di essere sempre solamente un babbo di minchia? tipo che fai delle cazzate così grosso che ti dimentichi le cose, vorresti uscire da te stesso e da lontano poterti mandare a fanculo. Tipo quella volta Martina Franca, c'era il festival del cabaret, 4 giorni bellissimi, quando sono ritornato al parcheggio di Linate, le chiavi le ho lasciate in albergo. Tipo all'esame al conservatorio di tromba, la tromba l'ho lasciata sul treno. Tipo quella volta in provincia di Modena, per uno spettacolo parcheggio la macchina proprio dietro il palco, apro il bagagliaio dove doveva esserci la chitarra, che è lo strumento del mio spettacolo, il vuoto. Tipo quell'altra volta in provincia di Modena, sempre dietro il palco parcheggio la macchina, apro il bagagliaio dove doveva esserci la chitarra, che è lo spettacolo. C'era la chitarra, ma lo spettacolo non era in provincia di Modena, era a Padova. Tipo quella volta tornando dall'India, in vacanza ho avuto la brillante idea, tornando prima di prendere l'aereo, di prendere il portafoglio e metterlo nella tasca laterale dello zaino. E arrivati alla Malpensa, che è un aeroporto famoso in tutto il mondo per la cura e la sicurezza dei bagagli, indovinate. Ma ogni tanto faccio qualcosa di buono, infatti avevo preso la carta di credito e l'avevo messa nel taschino della giacca, e quando sono andato a fare la denuncia i carabinieri mi hanno fatto i complimenti. Poi dovevo portargli le fototessere, perché non so se lo sapete che se gli portate le fototessere fanno tutto loro per il rinnovo della patente. Io sono uscito a fare le fototessere dalla macchinetta, perso la carta di credito. I carabinieri non potevano crederci, mi hanno bullizzato. Quando dovevo consegnare dei copioni importanti e mi si è rotto il computer, porca troia, chiamo a tutti quanti se avete qualcosa. Per fortuna la vicina del piano di sotto si era appena comprato un computer nuovo, mi ha dato quello vecchio. E la mia testolina, che a volte suggerisce cose furbe, mi ha detto di portarlo con me in un viaggio a Trieste, andata e ritorno in treno. Io, il computer solo andata. Quando l'ho detto alla vicina è morta. Quando non ho iscritto mia figlia all'asilo, nella chat delle mamme leggo che le iscrizioni saranno chiuse a fine gennaio. Chiamo la direttrice della scuola, non c'è un cazzo da fare. Mando un'email al comune, un cazzo da fare. L'unica da scrivere alla scuola privata. Ma le orsoline, 4.500 euro all'anno. Io son genovese e poi minchia le orsoline. Al giorno prima dell'iscrizione ricevo una telefonata dal comune, mi dice lei che ci ha mandato l'email, dico sì, sono un padre di merda, mi dice guardi che lei sua figlia l'ha iscritta. Mi sono dimenticato di aver fatto l'iscrizione, più che un babbo di minchia, un coglione, e mia moglie mi ha lasciato, fine della canzone. Signore e signori, Andrea Di Marco, il sequestro di persone è finito, 2 comunicazioni di servizio. Merda di Valerio non c'è più. No, l'ho beccato, ho detto, sai cosa mi ha detto? Vai tu al posto mio, ha detto. Allora, Richetto. No, io non voglio. Niente, faccio 2 annunci, Richetto non vuole, si è offeso. Primo annuncio, ci vediamo tra 15 giorni, il 30 di marzo, per lo spettacolo a 3 di Enrico Veronica, Alberto Vitale e Silvia Conti. Quindi serata 3, se volete venire 30 marzo, vi vedrete sicuramente una bella serata. Ma no, devono venire. Devono, sono obbligati. E ultima comunicazione, Sofia, di servizio. Ci sono delle buste sui tavoli, se vi siete divertiti, se avete passato una bella serata, buttate dentro qualche euro per questi disgraziati che vi hanno fatto divertire. Grazie a tutti, alla prossima, grazie Alex Alge. Siete divertiti, raga, ma guardate che facce. Academy. Stiamo lavorando per una serata solo Academy, sappiate.